La zanzara con Alessio Maurizi. Numero verde 800 24 00 24 per intervenire in diretta anche questa sera fino alle 20:30. Cari ascoltatori, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS. La zanzara @radio24.it. La zanzara è anche su Facebook. Iniziamo subito. Titoli di Sky TG24. Crazy Wall Street Fena e Piazza Affari affonda, 2,42% in chiusura. Bruxelles apre gli euro bond, la Commissione annuncia pronta una bozza. Nodo pensioni sulla manovra, Calderoli ribadisce la previdenza non si tocca. Italiani sotto attacco in Afghanistan, 2 militari contusi a Balamurgab. Kamikaze sedicenne in Pakistan, colpita una moschea, 50 i morti. Yacht contro gommone sul Lago Maggiore, una donna muore affogata. La collisione di Ischia, localizzato il peschereccio, da recuperare due corpi. Calcio scommesse, niente sconti per l'Atalanta, respinti i ricorsi di Signori e Doni. La bufera è passata, ogni cosa al suo posto, festeggiamo l'estate ed il mare di agosto. Tutti insieme compatti, da Ponti da Tarzano, tutti insieme felici in nome del popolo italiano. Festeggiamo l'estate d'agosto nel nome del popolo italiano, potrebbe essere questo il titolo della situazione, del momento. Qualche giorno di pausa in questo dibattito forsennato sulla manovra economica e sui sacrifici che dovranno fare gli italiani, quali e in che modo non si sa ancora, per rimettere a posto i conti dello Stato. E speriamo che questi giorni servano anche a fare un po' di chiarezza, per esempio, speriamo che non tutti vadano in ferie, i tecnici per esempio del Ministero dell'Economia, su chiarezza su cosa? Sulle norme, quello che si è saputo fino ad ora, su quello che è stato scritto sui giornali, sul decreto allegato alla manovra che è stato pubblicato dai giornali in questi giorni, perché di punti oscuri ce ne sono parecchi. Adesso per esempio viene fuori che sul taglio dei piccoli comuni c'è un grosso se. Salvi i microcentri che non hanno vicini sotto i 1000 abitanti, non saranno cancellati, non saprebbero con chi fondersi e per dare vita alle unioni servono almeno 5000 residenti. E questo è quello che leggiamo dai giornali di oggi, e tra l'altro ci sono le iniziative più svariate dei sindaci dei piccoli comuni che cercano di salvarsi. C'è chi come Acceglio in provincia di Cuneo fa appello a Lampedusa, mandateci un centinaio, qualche centinaio di immigrati così facciamo massa. C'è chi come la Capraia, l'isola della Toscana della Capraia, chiede di andare con la Corsica, chissà perché con la Corsica e non con la più vicina Elba. Oppure c'è chi come il comune di Filettino in provincia di Frosinone ha chiesto a Emanuele Filiberto di Savoia di diventare il principe di un principato, il principato di Filettino, che dovrebbe annettersi, non si sa, altri comuni della zona tra Latina, Roma e Frosinone, non il comune di Trevi, per esempio, dice il sindaco di Filettino, perché con loro siamo rivali. Si comincia male, caro sindaco di Filettino, però Emanuele Filiberto ha già detto che lui gli piacerebbe, ma è impossibile. Impossibile diventare il principe del principato di Filettino. Non stiamo scherzando, sono notizie che ci sono sui giornali in queste ore, sono dichiarazioni dei sindaci, come dichiarazioni sono quelle fatte ai nostri microfoni dei presidenti di provincia, anche loro disperati, o esponenti politici come Mastella, che a proposito di Benevento dice: non vogliamo sparire, piuttosto facciamo il Molisagno. Si è sempre parlato, e storicamente c'è questo sagno che è costruito dalla provincia di Benevento, dall'intero Molise, sì, da parte della provincia di Caserta, Avellino e fino anche Foggia e L'Aquila. Allora io ho detto: facciamo eventualmente una richiesta per cui la regione Molise diventerebbe una regione più appetibile, nel senso i 700-800 mila abitanti, sì, e allora a questo punto garantiamo la provincia di Benevento e garantiamo pure il Molise. Cioè passando sotto il Molise. Esattamente. Si tratta di scegliere anche là, magari in maniera referendaria. Esilarante anche il presidente della provincia di Savona, Vaccarezza, che vuole andare non con Genova ma con Cuneo, la porta verso l'Europa. Io sempre provincia di Savona Imperia devono sparire, perché così si è deciso, va bene, lo accettiamo, però chiediamo di essere ammessi alla provincia che scegliamo noi, di andare con Cuneo, visto che ci hanno messo il cappio al collo, ci lasciano almeno scegliere il ramo a cui andiamo a attaccare la fune. In questo momento in cui finalmente si parla di macro regioni, di aree omogenee, Cuneo è il nostro sfogo naturale, la nostra porta verso l'Europa e verso l'economia. Ci ha fatto anche il militare Totò e mica è poco. Certo, mica è poco. Presidente della provincia di Belluno, Bottacin della Lega, anche lui preoccupato per i tagli, e ne ha parlato con Calderoli, forse anche con Bossi in queste ore in Cadore. Sapete, Bossi tra l'altro è venuto via dal Cadore prima del previsto, dall'hotel Ferrovia, dove trascorre in genere le sue ferie insieme anche a Tremonti. È sparito, non ha voluto trascorrere la seconda notte lì. Si parla di contestazioni della base della Lega, ma sentiamo Bottacin. Il malumore non è nella Lega, il malumore è in tutti i cittadini. Nella Lega è dovuto al fatto che tanti militanti che mi contattano dicono: ma perché noi dobbiamo fare ulteriori sacrifici e tagli quando il nostro territorio, il territorio della provincia di Belluno, ha un residuo fiscale di 800 milioni di euro all'anno nei confronti dello Stato, contribuiamo già alla solidarietà nazionale da un sacco di anni e adesso ci chiedono ulteriori tagli. Non è accettabile per salvare l'Italia. Comizio annullato per Bossi a Calalzo di Cadore, se n'è andato via prima del previsto, però Calderoli dice: contestazioni no, 12 contestatori non fanno una primavera, sentiamo. Francamente 12 contestatori non fanno primavera, tutto il resto del Cadore non era protestare, era tranquillo. L'andare nell'interesse del territorio e degli enti locali debba essere un'attenzione dalla maggioranza, all'opposizione, da parte di tutti. Anche la chiesa che sembra non si muova, ogni tanto ci ripensa e ne inventa una nuova. E dimostrando un notevole tempismo, ha già tirato fuori un nuovo catechismo. Altro tema, le dichiarazioni del presidente della CEI, il cardinale Angelo Bagnasco. Chissà se tra le novità la Chiesa proporrà prima o poi il peccato di evasione fiscale. Intanto Bagnasco si accontenta di dire che gli è stato chiesto un giudizio sulla manovra economica, sulla situazione economica. Lui dice: non mi fate entrare in queste cose. Poi però ha detto: beh, sono impressionato dalle cifre dell'evasione fiscale. E poi però ha aggiunto: sì, ma non ci fate entrare dentro in questioni tecniche, perché noi dobbiamo rimanere, ha detto Bagnasco, a livello di richiamo spirituale ed etico che fa parte della nostra missione. Dunque l'evasione no, però insomma non ci fate scendere in questioni tecniche, non ci fate dire se bisogna pagare questa o quella tassa, perché noi non possiamo esprimerci su questo. Per il popolo italiano. Intanto però i politici più vicini alla Chiesa, come per esempio il governatore della Lombardia Roberto Formigoni, potrebbero rispondere al fatto, che è stato sollecitato da molti, di dire: beh, insomma, a questo punto forse alcune delle agevolazioni fiscali di cui la Chiesa beneficia potrebbero essere rimesse in discussione, visto che si parla di fare sacrifici per tutti, allora forse anche la Chiesa dovrebbe essere compresa in questo tutti. Sentiamo Formigoni qualche sera fa ai nostri microfoni. Uso la sua trasmissione per lanciare una sfida: questi signori facciano l'elenco degli edifici che secondo loro sono usati in maniera irregolare dalla Chiesa. È facile lanciare un'iniziativa dal sapore un po' retrocio, ottocentesco, anticlericale, anticattolica. Facciano l'elenco di quello che secondo loro viene dato dallo Stato alla Chiesa Cattolica, ripeto, rilegata anche da rapporti internazionali, che secondo loro viene utilizzato male. Il giorno successivo, sempre alla Zanzara, Mario Stadirini, dei Radicali Italiani. Formigoni ha fatto bene a lanciare la sfida, ma dobbiamo dirlo subito, è una sfida con le mani legate, perché il censimento degli immobili del Vaticano, che chiediamo come radicali da 40 anni, non l'hanno mai fatto e mai voluto fare, nello Stato né tantomeno gli stessi ecclesiastici. E poi ancora Formigoni: ma vogliamo far pagare l'ICI alle chiese? L'ICI, appunto, cioè vogliamo far pagare le chiese. Le chiese sono un patrimonio storico, anche artistico, culturale, servono per il culto delle persone, il fatto di poter avere una religione è stabilito chiarissimamente in Costituzione, fra l'altro esistono anche dei trattati internazionali che legano lo Stato italiano al Vaticano. Ancora Staderini dei radicali italiani che dice no no, le chiese lasciamole pur stare, c'è però dell'altro. Nessuno vuole tassare le chiese, le parrocchie o gli oratori. Si tratta qua di andare a vedere tutta quell'area che proprio sul dubbio interpretativo diventa elusione. Faccia dei controlli sulle case per ferie, cioè quegli ex conventi in cui le suore sono state messe tutte in un piccolo angolo, se sono rimaste, e sono diventate, diciamo, delle attività ricettive. Ma gli escamotage sono di più, io invito tutti ad andarsi a trovare sul convegno, sul sito della CEI, c'è un convegno della CEI dell'8-7 ottobre 2009, l'avvocato Rossi Federico che dà proprio le indicazioni su come si fa a non essere passibili di ICI. Una questione aperta, 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta. Tra poco, adesso una pausa per il traffico, poi prossimo ospite. Buonasera a Maurizio Paniz, onorevole del PDL. Buonasera a tutti. Senta Paniz, con lei vogliamo parlare un po' di tasse, perché è l'argomento del momento naturalmente. Prima di tutto le vorrei chiedere, lei come si definisce dal punto di vista fiscale, diciamo così, ceto medio o piuttosto benestante? Mi sono costruito sicuramente una posizione benestante, lo confermo, sono partito da sotto zero, non da zero, però oggi uno studio molto avviato e una buona redditività. Certo, lei è stato anche nell'ultima classifica, credo, dei parlamentari, è stato anche in testa per i suoi guadagni appunto da avvocato e quindi ci conferma, lei si ritiene un benestante perché guadagna più di 1 milione di euro l'anno, se non ricordo male. Non ricordo male. Ecco, allora, detto questo, ma non per farmi gli affari o per far fare gli affari suoi, per quanto lei da parlamentare è giusto che ci sia anche una trasparenza su questo, ma non è questo il punto, è per inquadrare la questione, perché quando si parla di tasse si tira fuori spesso il concetto di ceto medio, e però bisogna anche capirsi sui termini che si usano. Questa questione del contributo di solidarietà, Paniz, un contributo che verrebbe chiesto dalla manovra ai contribuenti sopra i 100.000 euro, che però fa scandalizzare insomma molti commentatori, politici, direttori di giornali che dicono non si può chiedere questo sacrificio, e qualcuno dice il ceto medio, però poi nessuno si preoccupa per esempio dei ticket sanitari che gravano sui pensionati al minimo, per esempio, faccio un esempio sempre dalla manovra, e questo scandalizza meno. Come mai, Paniz? Io credo che il problema vada posto da un altro punto di vista. Certamente coloro che hanno la fortuna di essere benestanti non hanno difficoltà a intervenire in un momento difficile per la storia del nostro paese o per la storia di tutti i paesi del mondo. A noi interessa naturalmente l'Italia. Il problema è che in questo modo si finisce per penalizzare soltanto coloro che sono più onesti, che dichiarano di più, che pagano già tasse anche rilevanti nel nostro paese, e non si tassano invece coloro che hanno delle disponibilità di altro genere che magari non hanno denunciato tempestivamente. Il reddito non è l'unica fonte di identificazione del benessere di una persona. Ci sono le barche, ci sono i SUV, ci sono le seconde, ci sono le terze case, ci sono tante altre disponibilità che spesso vengono tenute nascoste, e credo che coloro che si lamentano del contributo di solidarietà non lo fanno per contestare questa scelta, ma lo fanno perché vogliono che il governo e il Parlamento, nel percorso parlamentare che la manovra avrà, tocchi anche altri indici di disponibilità economica, in modo che ci sia un equilibrio molto più consistente e molto più significativo tra entrate e uscite nell'ambito delle singole famiglie, delle singole posizioni reddituali. Oddio, magari qualcuno di quelli che contestano la tassa di solidarietà magari hanno pure lo yacht e la seconda casa o villa al mare, quindi magari contestano anche quella di tassa, la patrimoniale, è possibile, no? Perché non è che sono tutti, perché si dice questi sono gli unici che pagano le tasse, cioè sono quelli che pagano le tasse, non si chiede nulla agli evasori, saranno pure quelli che pagano le tasse, però stiamo parlando sempre di gente che guadagna 8-9 mila euro al mese. A me fa piacere che ciascuno sia totalmente trasparente. Io voterei per un sistema fiscale nel quale ciascuno può evidenziare tutto, può portare in detrazione qualsiasi tipo di uscita, ma nel contempo evidenzia in maniera chiara qualsiasi tipo di entrata. Questo è un regime fiscale corretto e che sotto tutti i punti di vista non consente alcun tipo di discussione, e questo sarebbe l'auspicio se potessi intervenire in maniera diretta per portare a un certo risultato che io vorrei. Ma lei sarà in grado, è un parlamentare, di intervenire, oppure questo dibattito di cui si dice ci sarà un dibattito, l'opposizione, la maggioranza, ognuno dirà la sua e si faranno delle modifiche, oppure tutto viene deciso, non so, altrove, perché questa è un po' la sensazione che si è ricavata anche in queste ore. A proposito per esempio della patrimoniale, che lei dice io la sponsorizzerei, però sappiamo che Berlusconi è contrarissimo. Che ciascuno debba fare la sua parte. Io sono un parlamentare, farò sicuramente la mia parte in termini di propositività, di richieste, di controllo che le richieste vengano congruamente esaminate. Poi è chiaro che compete al Ministro dell'Economia prima e al Presidente del Consiglio assumere le decisioni finali. E questo è il lavoro che deve fare una maggioranza che governa un paese. Per esempio anche facendo un emendamento in questo senso, Paniz, mettendo quindi alla disponibilità del voto per esempio anche dell'opposizione, che credo che su questo sarebbe d'accordo, su una patrimoniale. Ma perché no? E credo che ci siano già altri colleghi con i quali mi sono intrattenuto in queste giornate che stanno lavorando in questa direzione. Io stesso ho avuto numerosi colloqui in questi giorni con colleghi che hanno una competenza specifica, perché sono nelle commissioni bilancio, nella commissione affari costituzionali, che sono quelle delegate a determinare il testo della manovra, e in tutti cerchiamo di apportare un contributo che possa rendere migliore il lavoro di sintesi, evidenziando anche la possibilità di toccare dei temi che, come quello della patrimoniale, fino ad oggi sono stati esclusi oppure hanno delle aperture minimali, per esempio sulle pensioni, dove c'era stato un niet iniziale, oggi mi pare che ci sia un'apertura di tipo diverso. Sull'aumento IVA dell'1% ci potrebbe essere un'apertura diversa. Insomma, sono molte le cose che possono essere esaminate e studiate. Bisogna fare i conti poi con quello che è il saldo finale, che deve rimanere assolutamente invariato, perché su questo non c'è discussione e tutti ne siamo consapevoli. Sul modo per arrivare a quel saldo io credo che il confronto parlamentare sia molto utile e tutti possono dare un loro contributo. Io certamente lo darò. Ma secondo lei la manovra deve cambiare abbastanza? Voglio dire, lei sa che c'è questa fronda di colleghi del PDL che vorranno intervenire, come diceva lei, anche sull'IVA, per esempio aumentare l'IVA, fare delle cose, aumentare l'età pensionabile, vogliono una manovra più liberale. Lei è vicino a questa fronda? Sono sicuramente consapevole del loro punto di vista e ho espresso anche consenso rispetto ad alcune iniziative che portano avanti, ma non occorre pubblicizzare la posizione tra virgolette di fronda o meno, occorre lavorare perché ci sia una collaborazione reciproca nel cercare la soluzione migliore, poi si deve operare attraverso la sintesi che è tipica del lavoro di una maggioranza parlamentare e arrivare al risultato finale. È chiaro che qualcuno dovrà sacrificare la propria posizione, ma questo è fisiologico in qualsiasi tipo di decisione che viene assunta a livello governativo o a livello parlamentare. Senta, lei che insomma in questi ultimi mesi l'abbiamo vista spesso anche in trasmissioni, ospite, insomma come rappresentante del PDL gode della fiducia, io credo proprio anche del Presidente del Consiglio in persona, perché non lo chiama per proporgli questa patrimoniale, così come ce l'ha spiegata a noi, come l'ha detta sui giornali, e vediamo se fa breccia la sua proposta, altrimenti ci rimane la sensazione che siano cose dette tanto per dire. Guardi, proprio non molti minuti fa ho mandato un messaggio a Bruno Vespa, che ha fatto un articolo di fondo contenente alcune di queste osservazioni sul Gazzettino, che è il quotidiano del Nord-Est, in edizione di oggi. E gli ho detto, manda direttamente l'articolo al Presidente Berlusconi e all'Onorevole Angelino Alfano, perché contiene una serie di indicazioni e di corrette indicazioni che mi pare sia opportuno che egli conosca. Quindi, come vede, mi sono già mosso attraverso fonti anche autorevoli dal punto di vista del messaggio informativo. Io personalmente non ho nemmeno il numero cellulare del Presidente Berlusconi e non lo intendo disturbare in un momento di vacanza, però seguirò sicuramente il percorso nei prossimi giorni, farò i passi che devo fare, se del caso parlerò personalmente anche con lui. Sì, vacanza, però ovviamente anche di lavoro, perché la sua posizione da questo punto di vista somiglia un po' anche a quella di Luca Cordero di Montezemolo, che ha detto sì anche alla tassa di solidarietà, però ha parlato anche proprio della necessità di far pagare un contributo a chi se lo può permettere, in un modo o nell'altro. Mi sembra che lei, da questo punto di vista, insomma, stia un po' sulla stessa linea. Sono su una linea abbastanza vicina a quella di Luca Cordero di Montezemolo, sono su una linea abbastanza vicina a quella che lei chiama la linea di fronda del PDL, ma non mi sento di fronda, mi sento un parlamentare che collabora nell'ambito del suo ruolo, esplicandolo in maniera costruttiva, in maniera positiva, per cercare di raggiungere una decisione che possa essere il più possibile utile nell'interesse del Paese, che tenga conto di diversi punti di vista. Quando un percorso parlamentare viene avviato, è chiaro che chi lo prospetta cerca di fare le cose al meglio, però quattro occhi vedono sempre meglio di due, e quindi in quattro occhi si può contribuire a rendere ancora migliore un lavoro che pure è stato fatto con coscienza e con massimo rispetto dalle varie posizioni. Io credo che questo sia il compito di un parlamentare serio: lavorare per fare sì che le cose possano essere migliorate, naturalmente mantenendo esattamente ben presente il proprio ruolo, cercando di non superare i confini che devono essere assolutamente rigidi, perché ognuno deve fare la sua parte. Non è che io da parlamentare posso fare il Ministro dell'Economia o il Presidente del Consiglio, però sicuramente al Ministro dell'Economia o al Presidente del Consiglio, che sono persone intelligenti, posso dare il mio contributo di idee. Lo valuteranno, riterranno che sia positivo, bene, lo terranno in considerazione, potranno darmi delle argomentazioni per ritenere che non possa essere congruo. Io ritengo che alcune osservazioni possano essere utilmente apprezzate, e mi ha fatto molto piacere leggere negli ultimi giorni che siano state delle aperture significative proprio nella direzione che auspicavo. Naturalmente, come già ho detto, ho parlato con qualcuno dei colleghi che sono direttamente interessati alla materia, perché non voglio vedere il campo di coloro che sono protagonisti nelle commissioni bilancio, nelle commissioni affari costituzionali, che sono quelle delegate ad esaminare in prima battuta il testo di questa manovra. Paniz, se può restare con noi ancora per qualche minuto, perché facciamo le informazioni dai mercati finanziari, poi le chiediamo ancora un paio di commenti, per esempio anche sulla norma che riguarda l'abolizione dei piccoli comuni, l'accorpamento dei piccoli comuni, perché sembra che sia una norma con tranello. Però tra un attimo, prima borsa. Onorevole Maurizio Paniz, le volevo chiedere un commento sull'accorpamento dei piccoli comuni, l'abolizione delle province sotto i 300.000 abitanti, e soprattutto per quanto riguarda la questione dei comuni, perché pare, quello che è venuto fuori, diciamo, andando tra le pieghe della norma, che qualcuno dice forse addirittura un terzo dei comuni di cui si parla potrebbero non essere accorpati, perché la norma prevede che per essere accorpati debbano essere accorpati a comuni confinanti, cioè se un comune è isolato in un'area e confina con comuni con più di 5.000 abitanti rimane così com'è. Sembra quasi un tranello, una via d'uscita per molti piccoli comuni, oppure una norma pensata male, raffazzonata. Che ne pensa lei, Paniz? Vengo da una provincia nella quale molti comuni sono sotto i 1.000 abitanti e sarebbero oggetto di soppressione. Vengo da una provincia, Belluno, che ha meno di 300.000 abitanti, quando anche abbia una superficie particolarmente grande. E quindi guardo con preoccupazione a questa norma. Però ritengo... Ma era all'hotel Ferrovia anche lei, scusi? Prego? No. Era per caso a Calalzo di Cadore anche lei? No, a Calalzo di Cadore rientro nel mio collegio elettorale, spessissimo di casa. Ma pensavo che fosse lì in occasione del compleanno di Tremonti. In realtà oggi sono nella vallata confinante, cioè nell'Alto Gordino, dove ci sono due comuni, Selva di Cadore e Colle Santa Lucia, che sono sotto i 1.000 abitanti e che sarebbero oggetto di soppressione. Comunque conosco molto bene le problematiche ovviamente del territorio e so quanto è difficile amministrare comuni piccoli, molto estesi, che hanno esigenze peculiari nelle singole frazioni. E del resto il lavoro che viene fatto è un lavoro sempre molto molto difficile, che richiederebbe energie, però sono favorevole alla soppressione dei comuni molto piccoli, anzi porterei la norma addirittura a 3.000-4.000 abitanti. Mi rendo conto che ci possano essere delle difficoltà interpretative, che la norma possa essere forse scritta male e debba essere scritta meglio, però alla fine io credo che se vogliamo fare delle riforme dell'architettura dello Stato dobbiamo passare attraverso questo. Questa cosa, che se fosse, diciamo, confermata questo meccanismo che eluderebbe un po' il provvedimento, secondo lei andrebbe modificato e andrebbe portato in modo tale che gli accorpamenti siano reali? Io ritengo che sia opportuno che gli accorpamenti siano reali, che vadano vagliate, se vogliamo, situazioni per situazioni, perché ci possono essere dei territori nelle quali si possono accorpare anche dei comuni che hanno più abitanti, perché sono dal punto di vista geografico, dal punto di vista storico, culturale, molto più vicini, molto più suscettibili di unità. Però certamente l'architettura dello Stato deve essere modificata, e non alludo con questa mia esigenza al compenso dei singoli amministratori, che è tutto sommato talmente modesto da non meritare commenti e che determina dei risparmi molto limitati, ma alludo a tutte le strutture delle singole amministrazioni, agli uffici tecnici, ai vigili, ai becchini, a tutte le realtà che in ogni comune ci sono, sono indispensabili e che, se compattate, possono sì determinare dei risparmi. È chiaro che questo deve essere fatto non solo a livello di comuni, anche a livello di altri enti intermedi, ce ne sono molti che possiamo ancora sopprimere lavorando in maniera molto costruttiva. Per quanto riguarda le province, sono dell'idea che o si aboliscono tutte, e sarebbe sicuramente una opportunità, magari lasciandole come enti senza... Oppure si deve lasciare tutto com'è? No, assolutamente, eliminarle tutte le province. Dice, però se questo non fosse possibile, in questo momento per esempio, cioè, perderemo l'occasione e non aboliremo nulla però, perché sa che a volte alzare l'asticella è un po', come dire, complica un po' le cose. Ma guardi, io credo che alla fine, se noi esaminiamo il testo della norma, guardiamo i 300.000 abitanti, guardiamo le province che sono più grandi di quella superficie che è stata identificata nel testo normativo, siamo a 29 province che dovrebbero essere soppresse. Non sono poche. No, non sono poche, però sono molte meno di quelle sulle quali bisognerebbe lavorare. Però è meglio di nulla, Paniz. È meglio di nulla. Sono perfettamente d'accordo che certamente il poco è meglio del nulla. Però io penso che sia un'occasione importante per lo Stato di fare un'autentica riforma dell'architettura del proprio Stato. E per fare una riforma importante, qualche volta bisogna andare anche contro gli interessi peculiari dei singoli territori. Senta, le facciamo sentire una cosa che riguarda una sua ospitata, credo questa mattina, Radio Radicale, perché poi le voglio fare una domanda. Sentiamo un attimo. Grazie al nostro ascoltatore dalla provincia di Ferrara. L'ultima telefonata viene da Arcore. Pronto? Grazie al nostro ascoltatore. Allora, Paniz, prego. Per quanto riguarda la domanda del primo radioascoltatore, posso dire, con riferimento alla seconda... Che Paniz, lei devo dire che è stato impassibile, non ha fatto una piega, almeno il video non si vedeva, si sentiva l'audio, e neanche il conduttore del programma. C'è stato questo ascoltatore che ha voluto, non lo so, fare forse una battuta. La domanda che però le vorrei fare... è questa, evidentemente, insomma, la questione, chiamiamoli così, sintetizziamoli così, presunti scandali sessuali di Berlusconi pesano ancora un po', almeno in una parte dell'opinione pubblica. Secondo lei, in questa fase di gestione della crisi, invece, Berlusconi si è lasciato alle spalle questa immagine un po' negativa, oppure invece è risultato in qualche modo indebolito proprio per questo? Sicuramente le problematiche che sono state trattate con riferimento alla vicenda Ruby e quant'altro hanno lasciato il segno in una parte dell'elettorato, ma questo non deve nascondere i grandissimi meriti che il Presidente del Consiglio ha avuto e ha anche in questa fase. Se l'Italia può vantare una crescita che in questo secondo trimestre del 2011 è superiore a quella della Germania e della Francia, come è stato acclarato dalla Merkel e da Sarkozy proprio pochi giorni fa, questo è sicuramente merito anche dell'azione di governo. Io credo che i limiti negativi che possono essere stati enfatizzati dagli organi di informazione e da una vicenda giudiziaria che forse non meritava tutto quello spazio non devono in alcun modo nascondere i meriti che, soprattutto in fasi delicate, in fasi difficili, il Presidente Berlusconi ha sempre evidenziato e ha sempre dimostrato. Io credo che abbia la capacità di guidare l'Italia fuori dal momento difficile che sta vivendo in parallelo con gli altri paesi del mondo. Quindi questa è la mia posizione molto molto chiara. Per quanto riguarda i radioascoltatori, naturalmente ascolto sempre con rispetto le opinioni di tutti, anche di coloro che manifestano il loro dissenso. Vabbè, qua non è che c'era molto da non è che ci fosse molto da commentare o da dire, era ovviamente una presa in giro. Paniz, se lei dovesse dare una pagella a Berlusconi per la gestione di questa crisi e una anche al ministro Tremonti, che voti darebbe? Darei 8 ad entrambi. Lei è molto ecumenico, però. Perché si parla di linee un po' diverse, e anche di qualche dissidio, insomma, poi la battuta sulla BCE ce la ricordiamo tutti. Non c'è uno dei due che... Ho dato 8, non ho dato 10, quindi entrambi possono lavorare ancora di più per raggiungere il 10. Chi è che deve lavorare un po' di più per migliorare? Tutti e due, perché il ministro dell'economia deve avere una flessibilità maggiore e accogliere anche suggerimenti che possono derivare dal percorso parlamentare, quindi dimostrare di raccogliere dei messaggi che possono essere utili per avere un lavoro ancora più significativo, pur avendo sicuramente fatto moltissimo. E il Presidente del Consiglio ha poi la responsabilità finale, perché è lui che guida in questo momento il governo, quindi è chiaro che il lavoro maggiore poi c'era lui, anche nella sintesi che deve operare del percorso fatto dal Ministro dell'Economia e fatto dai singoli parlamentari. Grazie, grazie Maurizio Paniz, buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti. E ora invece andiamo con gli ascoltatori all'824-0024, ce ne sono già molti in attesa. Cominciamo da Giuseppe che ci chiama da Pistoia, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, volevo fare una provocazione piccolina. Allora, vorrei capire se questa nazione esiste o non esiste, perché non si riesce a capire perché solo i poveri disgraziati devono pagare le tasse e la gente che guadagna e che ruba, perché ruba quando non fa il suo dovere alla comunità, non deve pagare nulla. Allora la mia provocazione è questa, si dica a sta gente, benissimo, non si può pagare le tasse, bene, che se ne vadano dall'Italia, gli si strappi il passaporto, non sono più italiani. Perché devono usufruire, cioè, di questo privilegio? Prima però facciamoli uscire dall'Italia, poi strappiamo il passaporto, se no come facciamo a farli uscire? Sono extracomunitari, ci sono tante brave persone non italiane che vorrebbero diventare italiane e pagare tasse. Va bene, era questa la sua provocazione? Grazie, grazie Giuseppe, grazie per questo suo provocatorio intervento. Stefano da Roma, buonasera. Sì, buonasera, eccomi, eccolo, buonasera, sì. Buonasera a tutti. Io volevo intervenire sulle province, avevo un ragionevole ragionamento sulle province, però voi provocate, fate sentire Formigoni con quelle sue frasi all'inizio della trasmissione, sì. Proprio non mi posso tenere, perché non si tenga, bisogna spiegargli a questo presidente Ciellino della regione Lombardia che non deve offendere la nostra intelligenza proponendoci questo sillogismo, come ha detto testuali parole nella sua frase che avete rimandato prima, che siccome la libertà di religione è riconosciuta nella nostra Costituzione, e allora sembra quasi che per sillogismo anche il diritto della Chiesa ad avere le esenzioni tributarie anche sugli alberghi, anche sulle colonie, su quant'altro, sia come riconosciuto dalla Costituzione. Allora si vada a rileggere il presidente Ciellino Formigoni le costituzioni di paesi che molto più eticamente e civilmente riconoscono ugualmente piena libertà di religione a tutti gli abitanti, e lo fanno anche molto più concretamente di noi, ma certo non sovvenzionano le religioni, perché ogni religione deve fare la sua opera di bene o di religione contando sulle proprie forze. Non è vero che se sta in Costituzione la libertà religiosa io sono automaticamente costretto come cittadino a sopportare. Non è il legame, cioè finché parliamo delle chiese probabilmente ha ragione Formigoni a tirare in ballo la libertà di religione in Italia è concordato. Però quando parliamo di tutti gli altri immobili, come gli edifici che rendono l'ospitalità ai pellegrini e non solo, a dire la verità, cattolici, beh lì è tutta un'altra discussione, credo. Però Formigoni ha difeso questa linea su tutta la linea. Grazie Stefano, andiamo a Danilo. Anzi, prima sentiamo i titoli dei telegiornali che abbiamo in attesa. TG2. Un'altra giornata difficile per i mercati finanziari europei. Le borse chiudono in negativo. Piazza Affari perde 2,5 punti. Andamento di Wall Street altalenante. Nuovo record dell'oro. Manovra l'ultima ipotesi, reperire risorse vendendo quote di beni e immobili dello Stato e di enti locali. Sulle pensioni, stop della Lega. Richiamo del Cardinal Bagnasco, più attenzione alle famiglie. Tragedia sul Lago Maggiore, yacht colpisce un gommone, muore una donna. Nel Golfo di Napoli rintracciata l'imbarcazione pirata che ha provocato un altro incidente con 3 feriti. 500 parenti dei 69 ragazzi uccisi da Breivik visitano per la prima volta l'isola della strage. Per l'autore del massacro altre 4 settimane di isolamento in carcere. Si impennano le temperature vicine in molte città ai 40 gradi. L'allerta continua per la protezione civile, l'ondata più persistente di questa estate. E sulle strade controesodo da oggi al via. La situazione del traffico in diretta. Commento di un ascoltatore su Facebook, LZ, dice: dite all'onorevole Paniz che la crescita del PIL del 2% nel secondo trimestre non c'entra nulla con l'azione del governo. Meglio che parli di temi che conosce, altrimenti fa la fine di Gasparri. Non ho capito però che fine abbia fatto Gasparri. Avevamo in attesa Danilo dalla provincia di Bergamo. Buonasera. Buonasera. Prego. Direttore. Senta, io sono un piccolo... Sempre grazie per la fiducia e per l'incoraggiamento quando dite direttore, ma qui di direttori ce n'è uno solo ed è Fabio Tamburini, prego. Prego. Sì. Io sono un piccolissimo imprenditore. Sì. E l'aggravio dell'IRPEF mi metterebbe in difficoltà. Però sono disposto a dare loro la patria a condizioni che i signori partitanti, i componenti i partiti, mi dicessero, per esempio, domani: abbiamo deciso di ridurre ad un terzo le auto blu, dimezziamo numericamente deputati e senatori, eliminiamo le province come da programma elettorale non rispettato soprattutto dalla Lega, eliminiamo l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, elevare subito l'età pensionabile a 67 anni per gli uomini e a 65 per le donne. Lei però non è che va avanti molto così con questo elenco. No, sì. Ne ho ancora due. Vada. Perché se non si fa, egregio direttore, se non si fa una, aridaglie, direttore, una manovra, sì, radicale, non risolviamo niente. Ci dobbiamo pagare tutto noi e loro, i 3 milioni che vivono di politica, rimangono immuni. Abolire subito quella legge Amato che prevede un vitalizio per gli extracomunitari over 65 con un assegno sociale anche senza avere versato contributi. È una cosa pazzesca, è una cosa che non esiste in nessuno Stato. Noi diamo la pensione a uno che è venuto, sta qui 10 anni, non versa contributi, però prende la pensione. E il signor Amato lo sapeva, ma ce l'ha collato a noi. Vendere il patrimonio dello Stato. E in più, l'ultima ciliegina sulla torta, sì, l'ultimissima, bloccare i rimborsi elettorali, che sono un vero e proprio finanziamento che è stato abolito con un referendum, ma che i partitanti si sono immediatamente riforniti sotto un altro nome, e precisamente rimborso elettorale anziché finanziamento dei partiti. Grazie Danilo, grazie Danilo. Riprendiamoci un attimo, studio aperto. Sul Lago Maggiore uno yacht si scontra con un gommone, una donna di 30 anni muore affogata, motoscafo pirata nel Golfo di Napoli, si sfiora la tragedia, ferita una mamma con le figlie, i due ragazzi che erano alla guida si sono costituiti poco fa. Durerà almeno altri 10 giorni l'ondata di afa africana che ci sta facendo boccheggiare, temperature vicine ai 40 gradi con tassi di umidità a livelli record, previsioni da Bollino Rosso in Valpadana, Umbria e Lazio. Venerdì di paura per le borse europee che aprono in profondo rosso, poi recuperano ma sull'onda di Wall Street tornano a scivolare in finale. Manovra, pressing sulle modifiche, ecco le più probabili. I vescovi contro l'evasione fiscale, cifre impressionanti. Ero già stato in quel bosco, avevamo lasciato la bimba in macchina e io e Melania avevamo fatto l'amore. Esclusivo a studio aperto il verbale di uno dei primi interrogatori di Parolisi poco dopo l'omicidio della moglie. Non l'ho uccisa io, dice, per noi era un bel periodo. Un ragazzo di 17 anni trovato senza vita in un residence di Jesolo. Inutili i soccorsi del 118, a stroncarlo forse un cocktail di sostanze stupefacenti ed è giallo. È l'estate di Federica, la regina del podio e del gossip si perdona tutto, ma il palio no. Quelle foto in prima fila a Siena hanno fatto scatenare gli animalisti e sulla piscina dove lei si allena è comparso uno striscione. Vergognati. Con il studio aperto e tra poco le notizie, quelle di GR24. Adesso Antonello che ci chiama da Cagliari, buonasera. Buonasera, dottor Maurizi. Pronto, mi sente? Sì, sì, la sentiamo. Prego. Sì. Ascolti, io stavo ritornando da casa mia, dal mare, qua a Cagliari. Beato lei, com'è la giornata? Bella? Bellissima giornata, un po' di libeccio, ma è una giornata da Dio. Ah, quindi guarda. Perfetta, perché era caldo col vento. Sì, un bel venticello, si arriva al mare, poi una bellissima giornata. Ma dove era proprio? In riva lì a Cagliari, al Poetto? Sì, sì, al Poetto, col bambino, con mia moglie, una bellissima giornata veramente. Complimenti. E io siccome sono un fedele ascoltatore di Radio 24, me la metto sempre, ogni tanto, e volevo intervenire, fare una riflessione sulla la soppressione dei piccoli comuni. Sì. Partendo da un dato, diciamo, anche storico. Che in Italia si parla tanto di federalismo, ma il federalismo noi l'abbiamo sempre declinato, tutti gli italiani, compresi noi sardi, in quello che è l'istituzione di prossimità più vicina a noi, il comune. E noi e mi dispiace che si debbano sopprimere i piccoli comuni, perché l'altro intervento che storicamente è stato fatto, volto alla soppressione, all'accorpamento dei comuni, l'ha fatto Benito Mussolini. Cosa? Sono i corsi e i ricorsi. Cos'è che ha fatto Benito Mussolini, mi scusi? Ci ricordi? Allora, soppresso dei comuni. Io in Sardegna, lo possiamo verificare tranquillamente sì. Tutti i libri, in passato aveva soppresso i comuni di Elmas, di Quartuccio, di Monserrat, erano accorpati a Cagliari, città, per fare più grande Cagliari. Poi negli anni Ottanta queste comunità, a colpo di referendum, hanno ripreso l'autonomia, abbiamo i comuni di Elmas, di Monserrat, di Quartuccio, come giusto che sia, perché dietro un'entità, diciamo, un ente autarchico territoriale, quello comune, c'è una comunità che si riconosce in quell'istituzione. Sì, però io ho capito lei il suo argomento, però ci sono anche comuni super piccoli e non credo che gli abitanti di un comune super piccolo non si possano riconoscere in un agglomerato leggermente più grosso. Poi certo, l'Italia è per definizione il paese dei comuni. Tra l'altro quella cosa che diceva lei di Mussolini era un'altra cosa, perché lì erano manie di grandezza. Voleva fare più grande una città piuttosto che l'altra. Come? Pronto, Antonello? Sì, sì, ti sento, sì. Mi senti? Ma hai sentito quello che ho detto? No, vabbè. È lo stesso. Grazie, Antonello, buona serata. Andiamo a... dove andiamo? Enzo, che ci chiama da Torino. Buonasera. Sì, buonasera, dottore. Sono un vostro fedele ascoltatore. Ascolti, io di professione faccio il consulente finanziario e fiscale. Sì. Ho 58 anni, sono 42 anni che lavoro e sono un liberale culturalmente anche nella vita di tutti i giorni. Sono sbalordito dal fatto che in questa manovra non ci sia una sola riforma di tipo strutturale. Sì. Ed è vergognoso che ci sono pochissimi giornali, tra cui il vostro, Sole 24 Ore, che si sta battendo sulle proprie pagine affinché venga fatta qualche riforma strutturale, ad esempio l'estensione del sistema contributivo pro rata per tutti a partire dal 1 gennaio 2012 sulle pensioni, che permetterebbe di risparmiare sin da subito dei quattrini. Ma la cosa che io voglio fare una domanda a lei, che è un professionista di lungo corso, ma lei come fa a fidarsi di una classe politica che ha avuto la faccia tosta di fare una riforma, per esempio nel 1995, la riforma Dini sulle pensioni, dove ha deciso che delle persone che avevano compiuto 18 anni di contributivi avevano diritto a mangiare per i prossimi 22 anni o 17 se andavano con la pensione di anzianità passeggiando col vino. Chi invece non aveva compiuto 18 anni aveva 17 anni e 11 mesi, a partire dal 1 gennaio 1996 doveva passeggiare non col vino, con la carne, ma doveva andare, diciamo, a pane e latte. doveva mettersi a secchetto. Cioè, più che latte, acqua e gesso, perché non era neanche latte. Sì, ok, però mi scusi, è impossibile rispondere alla sua domanda. Cosa vuol dire? Come si fa a fidarsi a una classe politica che è puntini, puntini, puntini? E queste sono le riforme che ha fatto l'Italia. È vero però una cosa che non la ricorda quasi mai nessuno, che la riforma delle pensioni, quella vera, fatta per esempio dalla Germania, è una riforma che va a regime in anni e anni e porta l'età pensionabile all'insù, perché questa è la tendenza inevitabile, in un periodo lunghissimo, lunghissimo, lunghissimo. Invece a noi spesso si fanno delle riforme che nel giro di poco, da un anno all'altro, cambiano le carte in tavola e poi magari ci si ritorna su e si ricambia ancora. Comunque, Enzo, è ancora lì? Sì. Si tratta dei cittadini da serie A e cittadini da serie B, delle nomeno in un colpo che solo. Sì, lei su questo ha ragione, sono d'accordo, però poi le riforme bisogna comunque farle. Poi non ho capito adesso però cosa c'entra con l'attualità questa sua posizione. Ma mi scusi, stanno discutendo in commissione al Senato, poi alla Camera, sulla manovra, perfetto. Ma degli uomini politici seri, responsabili, proporrebbero una riforma di questo tipo che consentirebbe di risparmiare n miliardi di euro sin da subito, sin dal 2012. L'ascoltatore, il piccolo imprenditore di Bergamo che mi ha preceduto prima, che ha detto il centrodestra, che peraltro io ho votato e sono molto deluso, aveva nel programma elettorale l'abolizione delle province, perché non la fanno? La liberalizzazione per esempio del mercato del lavoro, perché non lo fanno? Sì, va bene Enzo, va bene, sono tutte domande legittime, qualcosa stanno facendo e poi ognuno giudicherà. Non riesco a tirare altrimenti le fila del suo intervento. Fabio da Bergamo, buonasera. Buonasera, io volevo fare un intervento sul discorso del ceto medio. Cioè, praticamente io continuo a sentire, ed eravamo in montagna e ferie con un mio parente, continuavano a domandarci come mai continuano a parlare di ceto medio con stipendi di un intervento che su stipendi che è superiore ai 90.000 euro, non è dai 90.000 sì, euro. Sì, anche io trovo che sia questo sbagliato. Ci chiedevamo noi, o si è aperta la famosa forbice che si vede nei paesi di secondo livello, cioè si dice praticamente noi che ci consideravamo nel ceto medio magari con stipendi, magari marito e moglie sui 50-60.000 euro, si parla di lordo, e quindi si pensa magari medio basso, però dico, uno pensa sempre medio, sì. Allora se il ceto medio sono i 100.000 euro l'anno, allora dice io che guadagno in due 50.000 euro, allora cosa siamo? Siamo poveri in canna. 90.000 euro, dottore. E quindi l'intervento fino ai 90.000 non c'è, dai 90.000 c'è un intervento. Dopo può essere giusto, può essere sbagliato, non sto quello a contestare. Io capisco anche che loro magari pagano le tasse già, le pagano altre, tutto quello che vuole. Però pensare che un principale, un dottore, un avvocato così me lo chiamano ceto medio, io non riesco più a capire, cioè mi sembra fuori dalla realtà quotidiana nostra. Lei quanto guadagna? Ha fatto una cifra? Io sono 1.500 euro netti al mese e sono una di quelle aziende che dovrebbero essere privatizzate, perché sono un ente comunque che erano che il proprietario è il comune. Uh-huh. Ma va bene, sono da fare, si fanno, non c'è problema, cioè non sto qui a contestare tutto quello. Cioè, le pensioni, anche quando sento i radioascoltatori che chiamano, mi manca due anni andare in pensione e adesso mi cambiano, lo so che hanno dei problemi e tutto quello che vuole, però bisogna pensare ai giovani, cioè se io mi chiederanno di fare due o tre anni in più bisogna farlo, cioè sennò io non ho figli, però i figli che ci saranno domani, così gli vogliamo garantire un futuro o lasciamo tutto che vada come vada? Cioè non lo so, le persone vogliono tranquillità, sicurezza e non sentire chiamare ceto medio, perché sennò cioè non ci siamo più, sembra anche di non so, di portare negatività anche alle persone. E soprattutto di portare confusione. Sono d'accordo con lei su questa questione del ceto medio, l'ho detto anche in apertura questa sera, il ceto medio non dovrebbe essere, non è quello di chi guadagna più di 90.000 euro all'anno, è un uso sicuramente improprio della definizione di ceto medio, si parla di benestanti in quel caso. Comunque, siamo al Giornale Radio, poi di nuovo tra pochissimo con i vostri interventi, 824 0024, anche una sventagliata di interventi di sindaci che hanno delle proposte le più stravaganti per tenere in piedi i loro piccoli comuni. Numero verde 800 24 00 24 per intervenire in diretta anche questa sera fino alle 20:30. Cari ascoltatori, 349 238 6666, la Zanzara è anche su Facebook. Leggiamo subito un commento a proposito dell'intervento dell'ascoltatore che parlava di ceto medio. Michele scrive: questo ascoltatore sul ceto medio ha ragionissima. Altri messaggi di sostegno. Bravo Michele. Michele che sosteneva che il ceto medio non è quello di chi guadagna più di 90.000 euro all'anno. Titoli del TG3. Ancora giù le borse, Milano la peggiore in Europa. Si vende per paura della recessione. A Bruxelles si riparla di Eurobond ed è sempre più corsa a loro. La crisi delle borse mette KO la Fiat. I titoli del gruppo hanno perso metà del valore e vengono al pettine i nodi della gestione Marchionne. La Lega frena sulle pensioni. Calderoli, da noi nessuna apertura. Cresce la fronda nel PDL. Comuni sul piede di guerra per i tagli. I vescovi sulla manovra. Colpire gli evasori, non le famiglie. Il PD dimezzare i parlamentari. Il leader dell'UDC, Casini, ospite del TG3. Ancora raid israeliani su Gaza e razzi palestinesi sul sud di Israele. L'Egitto protesta e lancia un'inchiesta sull'uccisione al confine di 3 suoi ufficiali. Non si arriva più alla fine del mese. Fare la spesa è una vera acrobazia. Casalinghe e disperate, alle prese con la crisi. È un piccolo comune del Cuneese, solo 178 residenti, per la manovra rischia di essere cancellato. Così il sindaco chiede 823 migranti a Lampedusa. La bufera è passata, ogni cosa al suo posto. Festeggiamo l'estate ed il mare di agosto. Tutti insieme compatti, da Ponti da Darzano. Tutti insieme felici in nome del popolo italiano. Festeggiamo l'agosto nel nome del popolo italiano, benissimo, però cari parlamentari, cari tecnici, cari esperti del Ministero dell'Economia, intanto continuate a lavorare sulla manovra e sui decreti perché ci sono dei punti oscuri. Oggi i giornali riportano la questione dei piccoli comuni, ebbene pare che l'accorpamento, almeno per un terzo, qualcuno dice un terzo dei piccoli comuni, possa saltare perché ci sarebbe una norma tranello. Se non c'è al fianco un comune vicino che confina col piccolo comune altrettanto piccolo per federarsi, allora il comune resta così com'è e non cambia nulla. Un terzo di questo intervento sarebbe vanificato. Tra poco lo capiremo anche con un ospite che è la presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani. Avete sentito il titolo del TG3 che parlava del comune in provincia di Cuneo che chiede una mano a Lampedusa, vogliono gli immigrati, per una volta una merce richiesta e non come dire rifiutata, per far massa anche qua e superare la soglia dei 1000 abitanti, ed è il comune di Acceglie. Tra poco lo sentiremo, credo, anche questo sindaco qua. Italo Bocchino, il politico dell'estate, abbiamo detto ieri sera quando l'abbiamo sentito, è stato paparazzato con Sabina Began, l'amica stretta di Silvio Berlusconi, lui che con Berlusconi ha litigato, è stato autore di di polemiche sui giornali, lo strappo, Fini, Futuro Libertà, eccetera. Allora tutti a domandarsi perché questo incontro. Sentiamo Bocchino, la parte però in cui risponde sull'incontro con l'amica di Berlusconi. È stato visto e fotografato insieme a Sabina Began, l'amica stretta di Berlusconi, conferma che c'è stato questo tentativo, cioè è stata mandata proprio da Berlusconi. No, non lo so, guardi, non mi occupo di queste cose, ho partecipato a un pranzo, punto. Ancora Bocchino. Mi pare che lei abbia una considerazione piuttosto bassa di questa Sabina Began. Simpatico contorno, diciamo, di una cena, voglio dire. Comunque lei si è illusa, perché lei dice che invece le fa i complimenti, dice che lei è un uomo di una grande umanità. Lo so, siamo tutti di una grande umanità, il problema è ottenere i risultati. Un simpatico contorno, dice Bocchino, di Sabina Began, e pensare che invece tutti credevano che fosse il piatto forte di quella cena, cioè un incontro bomba, l'amica, una delle amiche, l'ape regina definita, cioè una delle più vicini a Berlusconi, con uno dei nemici più acerrimi di Berlusconi di questi ultimi mesi, Italo Bocchino. Un riavvicinamento tra Fini e Berlusconi? Così risponde. credo che Berlusconi sia molto pentito dello strappo confini, perché è finita la sua parabola politica, inevitabilmente sarebbe finita dopo la rottura confini, perché nel momento in cui tu preferisci mettere la polvere sotto il tappeto sulle questioni economico-sociali, quando noi dicevamo che l'Italia così non poteva andare avanti e che aveva bisogno di riforme, lui ha fatto l'atto di forza, ha voluto una rottura perché è abituato agli yes men, e la conseguenza è stato che è crollato il berlusconismo. Tutto va come deve andare, c'è son rosa fiorirà, fioriranno sassona rosa. E va bene, 19:22 minuti, riprendiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori, all'800 24 00 24. Abbiamo Raffaele che ci chiama dalla provincia di Olbia, Tempio. Olbia Tempio. Tempio Pausania. Certo, sì, buonasera a tutti. Buonasera, non è che sia un Tempio Pausania sia conosciuta da tutti in Italia. Comunque, prego, a proposito di province... È, sì. La provincia è Olbia Tempio. Sì, Olbia è più nota perché c'è l'aeroporto. Assolutamente, sì, d'accordo. Eccolo, certo. Prego, vada. Allora, il mio intervento era che io sono d'accordo su tutta la razionalizzazione della politica. Quindi il risparmio massimo, tagliare dove serve, e le province, compresa la mia, vanno eliminate. Perché in Sardegna abbiamo 1.600.000 abitanti, 8 province, sopravvivono ancora un certo numero di comunità montane, altre sono diventate unioni dei comuni. Quindi da cittadino convinto che paga le tasse, credo che i soldi devono essere spenditi meglio. Se l'economia si è razionalizzata, perché la politica non lo deve fare? E poi per quanto riguarda recuperare risorse, io mi aspetterei anche di intervenire sulle agevolazioni fiscali delle varie cooperative, che mi sembra che si confrontano sul mercato in concorrenza con altri imprenditori o con altre attività che hanno una fiscalità totale, e loro godono di agevolazioni. Però non ho sentito nessun parlamentare che ragiona su questi termini. Va bene, grazie. Intervenire anche sulle agevolazioni fiscali alle cooperative, perché no? Un'ipotesi. Salutiamo Franca Biglio, presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia. Sveleremo il giallo della norma Tranello. Buonasera. Buonasera a voi. E anche sindaco di Marsaglia, in provincia di Cuneo, il Piemonte è tartassato da questa norma, un comune di 300 abitanti. Lei ha listato a lutto gli ingressi del comune dicendo siamo chiusi per ferie. Non per ferie, ma per la morte del comune. Avete già fatto anche i funerali? Adesso vediamo cosa succederà a Roma il 26, perché noi il 26 ci troveremo a Roma davanti a Palazzo Chigi per consegnare le chiavi, la fascia tricolore, il gonfalone, e per invitare i nostri ministri, i nostri parlamentari a venire a gestire il nostro territorio e poter andare in vacanza anche noi. Dopodiché potremmo anche fare i funerali, per ora ci limitiamo ad annunciare alla popolazione che il municipio ha concluso la sua missione terrena, e la comunità di Marsaglia a lutto per la prematura scomparsa del comune soppresso da fuoco ritenuto amico. Senta, lei è presidente di un'associazione Piccoli Comuni d'Italia, sì, che potrebbe essere rasa al suolo, sparire completamente se passasse questa norma che proprio ce l'ha coi piccoli comuni. Lei che comuni rappresenta, sotto che soglia? Io rappresento i comuni fino a 5.000 abitanti. Insomma, siamo certo, lì. È certo che viene stravolto tutto il quadro, però sì, non solo la nostra associazione. Vabbè, ma questo poi è un effetto, diciamo, marginale, poi, insomma. Comunque è molto marginale. Sì, mi dica invece, a proposito di questa norma, è vero che molti di questi piccoli comuni che sono nel mirino del decreto potrebbero tirare un sospiro di sollievo perché, insomma, forse un terzo, qualcuno ha calcolato, per mancanza di vicinato disponibile ad accorpamenti, quindi resterebbero così come sono. Lei l'ha capita questa norma? Ma guardi, è una norma che non è facile da capire. Io non riesco a comprendere come non si riesca ad essere chiari nello scrivere, nel formulare, ma ci vuole poi così tanto a scrivere in modo semplice e comprensibile? La stanno cercando di interpretarla tutti, ma perché le norme devono sempre essere interpretative? Scriviamo in modo chiaro, quindi, visto che non la capisce nessuno e che è una gran confusione, va riscritta questa norma? Ma non va, prima di tutto ritirata, aboliamo l'articolo 16. Vabbè, lei la fa troppo facile, non sarà no, così. No, ascolti, non la faccio troppo facile, quell'articolo va ritirato e va riscritto. Questa è la sua richiesta, ma ecco, riscritto, esatto. sì, forse riscritto. Va riscritto da capo, ma concertato con gli interessati. Ma come, spariscono 1963 comuni, l'associazione che li rappresenta non ne sa nulla? Un colpo di spugna così dall'oggi al domani, sotto Ferragosto, in modo che passi inosservato, non solo dichiarando dei falsi che sono astronomici, ma dove sono sembra, le 54.000 sì. poltrone? Ma è un po' tardi perché passi inosservato questo provvedimento. Non più, infatti guardi, io mi riferisco ai giochi di prestigio, sai, il trucco c'è ma non si vede, questa volta il trucco c'era, hanno cercato di mimetizzarlo, però è palese. Ecco, ma il trucco però è un trucco che gioca a vostro favore, cioè in questo caso sarebbe una via d'uscita che sì. va proprio... No, ma per me il trucco era sbandierare i tagli sì. grazie ai 54.000 poltrone. Ma pensi che persino io, appena l'annuncio, ho detto ma che meraviglia, finalmente un grande esempio parte da Roma nei confronti di tutti quelli che comunque si sono già attivati da tempo per contribuire al risparmio. Invece queste 54 poltrone, 21.593 sono date dagli assessori e dai consiglieri, unità operative. Quante, sì, va bene, 43... però questo, mi scusi Biglio, questo è stato già detto. Quello che non si è capito è proprio questa questione qua. La norma ha o non ha un tranello che vanifica almeno in una grossa parte? Però, vedi, perché sennò voi protestate, però in realtà poi non si farà nulla, o si farà ma poco. Allora cancelliamola, se non serve a nulla perché l'hanno scritta? Perché hanno scritto una cosa che non serve a nulla? Non lo so, questo crea... non sono io a dover rispondere, però... Ecco, e nemmeno io, che crea confusione e allarmismo, e che comunque secondo noi è un grave attacco, alla partecipazione democratica e al confronto. Capisce? Ma lasciamo da parte un attimo, mi scusi Biglio, perché lasciamo da parte il confronto, la partecipazione e tutte queste cose qua. La norma di cui stiamo parlando, lei dice bisogna interpretarla. Nella interpretazione che date voi, quanti benedetti comuni piccoli sopprime? 1900 come si è detto o circa la metà? Per via di questa... 1963, così come la interpretiamo, no, non dovrebbero più essere 1963. Però la precisione... Quanti dovrebbero essere? Non glielo so dire io di preciso, sicuramente diminuiscono. Però noi di non quanto più o meno? In che proporzione? Potrebbero essere un terzo, però guardi, le sto dicendo delle cose che non corrispondono al mio pensiero e alla realtà. Lei mi vuol far dire una cifra che io non conosco attualmente, arrivo da Roma. Se non la conosce lei, che rappresenta i piccoli comuni, chi la deve conoscere? Guardi, se la chiediamo a qualcuno di Roma, credo che non lo sappiano neanche loro. Non lo sa nessuno, perfetto, è meraviglioso. Ecco, per conto mio non lo sa nessuno. Allora, a questo punto sarà il caso di rivedere tutto e ricominciare da capo. Lo scopriremo solo vivendo. Va bene, io la congedo qua. Grazie. Grazie a tutti voi. E a presto, Franca Biglio. Abbiamo la borsa, rientriamo tra pochissimo. Maurizio, non faccia il furbo, la norma sui comuni è una buffonata. Danilo, al 349-238-6666. È proprio quello, caro Danilo, che cercavamo di capire con questa intervista. Mi pare che, insomma, forse una buffonata è un po' forte, però sì, ci sono ancora molte cose da chiarire, per dirla con un eufemismo. Claudio da Cuneo, buonasera. Buonasera Maurizio. La provincia dove ci sono tutti questi comuni e comunelli che... Esatto, sì. Comuni di 80 abitanti, anche di meno magari tante volte. Ecco, io però volevo lanciare una provocazione riguardo all'abolizione delle province. Io direi, e se provassimo a pensare di abolire le regioni? Mi spiego meglio, prendiamo l'esempio del Piemonte, parlo del Piemonte visto che sono piemontese. Che cosa ci azzecca la provincia di Cuneo col Verbano Cusio-Ossola? Dal punto di vista culturale, linguistico, sono realtà assolutamente, completamente diverse una dall'altro. Io preferirei poter avere rapporti strettissimi con la città di Alba. Sì, lei me l'ha messa su un piatto d'argento però, perché la provincia di Savona chiede di federarsi con voi di Cuneo. Avete più cose in comune voi di Cuneo con quelli di Savona, per esempio, rispetto all'esempio che ha fatto lei? Ma sicuramente dal punto di vista logistico e dal punto di vista territoriale, sì, sicuramente abbiamo più vicinanza con quelli di Savona che non appunto con quelli di Novara. Insomma, queste regioni sono state fatte male, sono state i confini... Secondo me sono assolutamente inutili, anche perché poi, come diceva giustamente l'ascoltatore ieri, sì, sera, comunque la gestione della regione è comunque onerosa, nel senso che comunque a Cuneo c'è un ufficio, come penso in tutti i capoluoghi di provincia, con un sacco di dipendenti che non so bene che cosa servano. Quindi voglio dire, io personalmente mi vedrei molto meglio mantenere una realtà locale. Ho capito Claudio, io lei dice abolire le regioni anziché i piccoli comuni. Io invece dico abolire le province, mantenere le regioni e i comuni. Ognuno poi dice la sua, e anche questo è giusto. E anche questo è giusto. Poi c'è un ascoltatore che ci scrive un SMS un po' drastico. Beppe dice: perché non eliminiamo anche le parrocchie? Cioè, ora, tra il far pagare l'ICI ai luoghi magari non di culto della Chiesa, eliminare proprio le parrocchie, mi pare che lei si sia spinto un po' in avanti, caro Beppe. Comunque, chi sentiamo? Valerio da Genova, buonasera. Valerio? Caro Valerio da Genova, lei adesso forse ha lasciato il telefonino da una parte, si è distratto e sta facendo tutt'altro, però volevamo chiamarla. E invece Valerio, niente, chissà cosa sta facendo. Michele da Bologna. Eccomi, pronto. Buonasera, sì. Attaccato al telefono. Ecco, senta, no, io sì, ascoltavo un po' gli interventi prima, a me sembra che poi alla fine questa manovra sia più una improvvisazione, più che un pensiero profondo, perché... qui veramente anche sulla questa faccenda che ha raccontato lei prima dei comuni piccoli, per cui mi sembra che ci sia una forte dose di improvvisazione. Dopo abbiamo ballato per 3 anni sul Titanic, poi qualcuno, la banca centrale europea, ci ha detto che stavamo andando contro un iceberg e ci siamo inventati qualche cosa pur di arrivare a un saldo, e adesso siamo disposti a qualunque cosa purché il saldo non si tocchi, compreso l'aumento dell'IVA. Ho sentito parlare anche di questo, ma dico, io credo che questo vada esattamente contro a cercare di recuperare un po' l'evasione fiscale. Se aumentiamo l'IVA è evidente che il privato cittadino avrà sempre meno interesse a chiedere una fattura per una prestazione di un artigiano. Il meccanismo del 36% ci ha aiutato un po' in questo senso. Allora forse inventarsi dei meccanismi di questo tipo che aiutino a recuperare l'evasione potrebbe essere ben più efficace che non un aumento dell'IVA in questo senso. Questo è il mio parere. Un'altra cosa che volevo dire è rispetto alla valorizzazione della famiglia in tutta questa manovra. Cioè, non mi sembra che nessuno si stia ponendo il problema di come quello che stiamo facendo incida sui costi della famiglia, anche il contributo di solidarietà, cioè i famosi, il tetto dei 90.000 euro, ma i 90.000 euro in una famiglia di 2 persone incidono in maniera diversa dei 90.000 euro in una famiglia di 5 o di 6. Lei cosa ne pensa? Grazie, tra poco sentiremo che cosa commentano gli ascoltatori del suo intervento, caro Michele. Prima però il prossimo ospite. Introdotto dalla sigla sparata altissima di Campanile Sera, una trasmissione che forse non tutti ricorderanno, 1959, Campanile, perché stiamo parlando di questo. E salutiamo il sindaco di Acceglie, Riccardo Benvenu. Buonasera. Buonasera. Stiamo Buonasera. Inaugurando una piccola rubrica, il Campanile 2011, cioè sì, le proposte dei piccoli comuni. Lei ne ha una straordinaria, devo dire che si è distinto. È una provocazione, però guardi che... E di questo chiedo scusa al sindaco di Lampedusa. Sì. Perché sinceramente vorrei poterlo aiutare. Veramente, sì, no, però devo dire che potrebbe anche essere realizzabile, perché no? No, perché purtroppo non ho le strutture, non posso proprio ospitare questa dieta, anche se so che ne ha bisogno. Ci sta dando una delusione incredibile. Farlo col cuore. Ci sta dando una delusione incredibile. Allora, però ripetiamo qual è la proposta, perché altrimenti li ascolta. Sì, li ascolta. Aspetti, la riassumo io. Gli ascoltatori se no non capiscono. Lei ha detto, dato che il mio comune ha quanti abitanti? 178, sono un pochini per arrivare a 1000, però lei ha detto a Lampedusa: mandatemi su 700-800 immigrati e così arriviamo a 1000. E per una volta, insomma, gli immigrati non li vuole mai nessuno, invece lei dice portateceli qua, facciamo massa. Però ha già fatto retromarcia, sindaco? Ha fatto retromarcia perché era già dall'inizio la retromarcia, sì. Perché era una provocazione bella e buona per scuotere l'animo dei politici, sempre che abbiano un animo per farli... Per se però De Rubè se la prendeva sul serio, glieli mandava su? Mi dica? No, dico se De Rubè se la prendeva sul serio, il sindaco di Lampedusa, e glieli mandava su qualche centinaio di immigrati. Io l'ho cercato, e non sono riuscito a trovarlo per telefono e tramite la vostra radio vorrei scusarmi con lui. E torno a ripetere, vorrei poterlo aiutare sinceramente. Adesso fa il buono, perché però in queste cose e vorrei poterlo aiutare. Sindaco, benvenuto, sì. Buonasera, eccolo qua, sì. Mi sente? Sì, perché lei sento che va, l'ha un po' sparata grossa, adesso forse sì. Cerca di fare il buono, però... Ma no, non cerco di fare il buono, perché sì. Dall'inizio era già una provocazione e lo è stata sin dall'inizio, sempre una provocazione è stata. Sì. E tale deve rimanere perché purtroppo non posso far di più. A parte che come provocazione, ripeto, non era male, e credo che diciamo un riequilibrio, no, dei piccoli comuni con una spartizione degli immigrati che normalmente non li vuole mai nessuno, potrebbe essere invece, ora lei parte troppo dal basso, perché 178 arrivare a 1000 è chiaro, è una partita persa. Poi le dico di più, il sì. Mio comune è situato a 1200 metri di altezza. Fa freddo. Potremmo avere solo delle strutture. Per chi viene dalla Libia fa un po' freddo. Di riscaldamento non potrei neanche volendo ospitarli. Sì. Però potrebbe essere una cosa da proporre a qualche comune, a qualche altro comune. Bisognerebbe scendere giù ai comuni grandi, Cuneo, Dronero, quei comuni. Senta, grandi, lei, dove hanno possibilità di far questo. Lei è nella Val Maira. Valle Maira, sì, che è un posto meraviglioso. Comune della Valle Maira. Sì. Quanti paesini come il suo ci sono che rischiano la sparizione? Come il mio ci sono 10 comuni. Ecco, ma voi ce la fate a federarvi e a superare la soglia? Assolutamente no, dovranno accorparci con altre vallate, o la Valle Stura, la Valle Grana, non so quali saranno le vallate che verranno accorpate con noi. Perché non sarà una cosa semplice. I paesi della Val Maira, quanti abitanti fareste? Insomma, io di preciso non so dirglielo, ma i paesi della Valle Maira tutto saranno, a dir tanto saranno 1200, 1300 gli abitanti di tutta la valle. Beh, allora siete sopra i 1000, ce la fareste? Ma con tutta la valle? Certo. Però bisogna arrivare a 5000 forse per avere la municipalità. Sì, sì, sì, esatto. E quindi ha ragione, siete lontani, sì. Siamo molto lontani da arrivare a 5000. Ma lei ha capito se c'è la possibilità che non vi tocchi nessuno nel caso in cui non si trovino comuni limitrofi con cui federarsi? L'ha capita questo aspetto della norma? No, sinceramente no. Io sono pessimista per natura. Purtroppo per me questa legge scellerata andrà in Parlamento, verrà discussa e verrà approvata. Sì. E noi ci ritroveremo ancora una volta a essere defraudati della nostra libertà, delle nostre montagne e del nostro territorio. No, beh, le montagne adesso che nessuno abolisce perché le montagne. Io voglio prevedere chi verrà e come lo gestiranno. Questo paese. Io ma voi per cosa, esempio, siccome quella zona di cui parliamo è una zona anche dal punto di vista del turismo, cioè, c'è una certa frequentazione, voi poi col fatto dei vini in Piemonte ci sono molti introiti, molte risorse, il territorio è molto curato, questo si nota venendo lì, però dal punto di vista della gestione dei servizi voi vi siete già federati con gli altri comuni per avere dei risparmi, cioè siete dei comuni virtuosi o no? I servizi sono già accorpati alla comunità montana. Abbiamo, per esempio? Abbiamo ancora il Gombra Neve che è a carico nostro, il trasporto alunni e raccolta rifiuti. Gli altri sono accorpati con gli altri gli comuni? Gli altri sono accorpati. E lei come sindaco quanto prende come indennità? Come sindaco prendo 600 euro al mese, da 2 anni. Prima non ho mai, questo vorrei precisarlo, perché prima non ho mai percepito niente, ho fatto questo, il quarto mandato che faccio, è la prima volta che percepisco l'indennità di carico. Però lei, scusi, 178 abitanti, la mattina cosa fa? Va a lavorare, fa il suo di lavoro, non no, credo che vada in comune per 178 io abitanti. Io sono quasi a tempo pieno per il comune, sono andato in pensione da poco, sono quasi a tempo pieno. Però è un po' una sua scelta, perché credo che si possa governare 100 abitanti anche... ma lei sapesse quanti problemi anche ci sono. Con la mano ci sono sinistra. I problemi che è una città... a differenza che le città hanno l'organico su cui possono contare. Io di organico niente, un segretario scavalco, un geometra che viene una volta alla settimana e l'impiegata che viene mezza giornata al giorno. Quindi tre dipendenti. Per cui lascio lei decidere e credere come sia facile amministrare in questi posti. Il consiglio comunale com'è formato? Cioè, è una lista civica da 12 componenti. Quindi siete in quanti in consiglio? 12. E la giunta? La giunta da 4. Però senta, io con tutto il rispetto, perché poi ripeto, territori meravigliosi e l'impegno delle persone, anche se soprattutto se istituzionale, è meritorio. Però 4 assessori per 178 abitanti, che fanno questi assessori? Allora, le dico di più, noi nel periodo estivo passiamo da 178 a 5.000 abitanti. Addirittura. Sì, abbiamo 2 mesi proprio di turismo. Però gli altri 10 mesi vi preparate a questi 2 mesi? Abbiamo invernale, abbiamo una pista da fondo, abbiamo alcune gite di alpinismo, non abbiamo un granché come turismo in inverno. Qualcosa c'è, ma non tantissimo. Va bene, il nostro è tutto volontariato, perché lavorano tutti gratis, tutto quanto quello che si fa. Insomma, lei benvenuto, ha avuto paura che De Rubesse la prendesse sul serio, ecco perché adesso fa retromarcia. Perché... Non ho avuto paura, no, assolutamente, no, sto scherzando. Di Lampedusa l'abbia capito sin dall'inizio che era una provocazione. Grazie, buona serata. A lei di nuovo, buona serata. E allora, questa è la situazione in Valmaira. Ancora qualche ascoltatore, Francesco da Trento, buonasera. Sì, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Scusi l'emozione, la prima volta. Niente, mi ricordo una sua frase detta qualche giorno fa, che diceva: prima proviamo a sistemare le cose e poi proviamo a cambiare la mentalità. Sì. Mi sa che si dovrebbe fare proprio il contrario, e lo dimostra in questi giorni tutti quelli che dicono: ok, prendiamo i soldi, ma non da me. No? Sarebbe bello invece vedere proprio in questo momento di crisi che la gente, che quelli interessati dicessero: ok, tiriamoci sulle maniche e contribuiamo un attimo a quello che ci stanno chiedendo. Certo, è sempre un diritto dire la propria, però insomma, in un momento come questo, secondo me, bisognerebbe un attimo rendersi conto che si è tutti sulla stessa barca. Grazie. Sa cosa penso? Penso che invece una bella legge, un bel decreto, una bella manovra come questa, che taglia un po' di sprechi, soprattutto se ben fatta, servirebbe invece a fare anche un po' di mentalità nuova all'insegna del risparmio, appunto, e dell'austerità. Corrado, dalla provincia di Imperia. Ah, buonasera. Anzi, volevo esprimere un'opinione su due argomenti. Innanzitutto, visto che nell'ultima manovra è previsto il rialzo della tassazione sulle plusvalenze al 20%, volevo sottolineare che... Ma lei dov'è? In un sottoscala qualcosa? Sentiamo un rimbombo pazzesco, Corrado. Anche dei rumori, sai, sembra che sia a cavallo. Cosa sta facendo, Corrado? Adesso mi sente meglio? Insomma, proviamo. Veloce, Corrado, prego. Sì, volevo dire che la tassazione sulla plusvalenza considera il rialzo nominale, ma è ingiusto tassare il rialzo nominale su investimenti di lungo periodo, che in buona parte possono essere connessi all'inflazione. Immaginiamo che qualcuno abbia investito in fondi azionari esteri nel 99 e abbia adesso un rialzo del 30%, quel 30% verrebbe tassato, ma sarebbe... Va bene, Corrado, abbiamo capito, grazie. Lei era indubbiamente a cavallo, non c'è dubbio, e questo si sentiva, no? Comunque ha detto quello che voleva dire. Grazie, mi dispiace di averlo segato così, però si sentiva molto male. Valerio da Genova. Pronto, buonasera. Prego, abbassi la radio, o la spenga, spenga la radio, sì. Sull'evasione fiscale, diciamo, su un po' la sperequazione che abbiamo anche sugli stipendi di questi politici qua. Io volevo soltanto fare presente una cosa, cioè, ma secondo lei, cioè, questo vuol dire, cioè, il popolo italiano è un popolo di furbi o un popolo di ingenui? Cioè, io penso che gli italiani, anche gli evasori, non sono così tanti ingenui, nel senso che l'evasione fiscale viene anche un po' da una rivalsa sociale, cioè da un qualcosa che ti nasce nella pancia. Perché tante persone lo vedono alla televisione, vedono amministratori locali che, non so, hanno rubato, hanno preso tangenti, o politici che prendono degli alti stipendi, e la gente comune si arrangia, cosa deve fare? Cioè, l'evasione fiscale nasce anche un po' da questo, cioè da un sentimento di di rivalsa nei confronti di queste persone qua, cioè vediamo, non so, persone che lavorano in ambienti sociali, che magari sono tre persone dove ne bastava una, e questo qua, io volevo soltanto chiedere questo qua, così che la gente sia stupida in Italia, non ho capito. Grazie, grazie anche a questo ascoltatore. Abbiamo il prossimo ospite? No, ce l'abbiamo? Sì. E allora introduciamolo. Sempre introdotto dalla sigla di Campanile Sera, Luca Sellari, sindaco di Filettino in provincia di Frosinone. Benvenuto anche a lei. Buonasera. Sembra una di quelle trasmissioni in cui si viene a tipo Portobello a dire ognuno la sua. Caro sindaco, lei però come dire, ci rappresenterà questa sera il sogno infranto di Filettino, perché lei aveva proposto di fare un principato annettendosi comuni che adesso ci dirà, che il suo è un comune piccolo, però il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha detto mi dispiace, ringrazio per l'offerta, ma non è possibile. Vi arrendete? No, assolutamente no, anzi siamo ancora più motivati di prima. Noi andremo avanti e continuiamo a questa nostra nuova esperienza. Che esperienza è però? Perché ce la spieghi un po', che idea vi è venuta a voi? Ma diciamo che noi partiamo dal presupposto che non condividiamo assolutamente quello che è stato il decreto. Questo lo immaginavamo. Quanti abitanti siete voi? Noi siamo effettivi 550 abitanti, però nel periodo estivo raggiungiamo quasi le 20.000 unità. Quasi 20.000? Quasi 20.000 unità, sì. Ah, ok, sono tante. Sono molte, sì. Sono molte. Dicono tutti non così. È uno di quei paesini piccoli, piccolissimi, insomma, abbiamo un territorio di oltre 8.000 ettari, per cui parliamo di un qualcosa di abbastanza grande. Lei si è inventato questa cosa del Principato, però non ho capito chi è che quali erano i comuni che volevate in qualche modo annettervi per evitare la mannaia dell'accorpamento o della chiusura del comune. Ma noi non volevamo annetterci con nessun altro comune, la nostra idea è quella di rimanere comune di Filettino. Sì. Non abbiamo nessuna intenzione di E come facevate a creare un'entità che poteva in qualche modo reggere al decreto? Ma diciamo che noi siamo autosufficienti dal punto di vista economico, anzi è uno dei pochi paesi italiani che chiude in attività il proprio bilancio, per cui non abbiamo nessun tipo di problema dal punto di vista economico. Volevamo portare avanti la nostra autogestione. Ah, cioè lei voleva proprio così, aggirare basta il decreto, la manovra, senza stratagemmi? No, assolutamente, senza stratagemmi. Affidandosi però a Emanuele Filiberto? No, assolutamente, questa è stata la nostra idea, perché come tutti i principali naturalmente volevamo che ci rappresentasse un vero principe, quindi abbiamo chiesto a Emanuele Filiberto se voleva aderire a questa nostra iniziativa. Ma non, da quanto mi risulta, insomma, non è stato un no secco, anzi un no per il momento. Quindi diciamo che la porta è ancora aperta, perché sì. Però leggevo che i comuni circostanti, perché lei insiste a dire che non volevate annettersi nessuno, però mi sembrava nella prima versione della sua proposta che invece anche lei aspirasse a qualche referendum, a qualche revisione. Guardi, il problema nostro è soltanto questo, è un problema culturale, è un problema tecnico, ma non soltanto tecnico. Cioè il discorso è questo, non possiamo con un decreto emanato dal governo annullare quello che è la storia. Cioè, invece possiamo, sindaco, perché il decreto è stato approvato, quindi sì, cioè, adesso poi si discuterà, però questo è stato fatto, cioè, facciamo un passo in avanti, questo è stato fatto, non è che... Sono d'accordo, ma noi non ci siamo, quindi continuiamo con la nostra protesta. Insomma. Cioè la sua è una forma di protesta, insomma. La nostra è una forma di protesta, ma tra le altre cose noi abbiamo fatto un invito qualche giorno fa agli altri sindaci, sì? Li abbiamo invitati qui a Filettino e abbiamo chiesto anche un invito al Presidente del Consiglio, al Ministro Tremonti, per discutere, ma soprattutto per fargli capire quali sono i problemi. Però nel frattempo non siete stati con le mani in mano, leggo che avete stampato la moneta di Filettino, il fiorito. Abbiamo già stampato una moneta naturalmente simbolica di Filettino. per prepararci, diciamo, a questa nuova avventura. A questa nuova vita. Ma scusi, faccio la domanda classica, ma con quali fondi l'avete finanziata questa moneta del fiorito? Fondi comunali? No, assolutamente, con fondi nostri privati. Fondi privati, quindi un'iniziativa proprio che lei sta sposando per cercare di rilanciare il suo comune. Esatto. Va bene, le facciamo tanti auguri. Grazie. Grazie Luca Sellari, sindaco di Filettino. Il sogno infranto per ora di Filettino, perché Emanuele Filiberto ha detto grazie, ma non è possibile diventare il principe del principato di Filettino. Ma il sindaco ha detto se ne riparlerà. Ascoltatori all'824 0024, Edoardo da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Una battuta, una considerazione molto veloce sulla classe dirigente italiana. E quando ho sentito proprio a Radio 24 le associazioni e dei dirigenti che dicono faranno un tavolo comune per fare delle proposte alternative, viva Dio che si sono svegliati, insomma, si ricordano soltanto anche loro, quando gli si mette le mani in tasca, di fare anche loro qualche cosa per il paese. Poi classe dirigente politica, principati, portare gli immigrati per aumentare il numero di abitanti. Mi sembra veramente che forse si può tartassare questa classe dirigente, altro che prelievo straordinario. Non si guadagnano, non si meritano proprio per niente quello che guadagnano. Grazie. Andiamo a Carlo che ci chiama dalla provincia di Foggia. Carlo? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera. Senta, una considerazione per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale. Secondo me questo è secondo tutti, diciamo, i commentatori più lucidi di questo momento, compresa la CEI, questo è il problema dei problemi per l'Italia, no? E vorrei ricordare che per esempio la Germania in questi giorni sta cercando di raggiungere un accordo con le autorità svizzere per tassare i capitali che si spostano dalla Germania nelle banche svizzere con la stessa tassazione che esiste in Germania, proprio per scoraggiare questi movimenti, diciamo, da parte dei furbi tedeschi. E volevo ricordare un altro episodio, che lo scorso anno scoppiò quello scandalo di quel dipendente di banca che aveva passato ai servizi segreti tedeschi una chiavetta USB con il nome di 5.000 evasori, e la Germania riuscì a risalire anche ai 5.000 nominativi, anche perché la Merkel li esortò ad autodenunciarsi, perché sennò avrebbero ottenuto, diciamo, delle conseguenze ancora più peggiori, diciamo. E questi si autodenunciavano tutti perché capivano che il governo stava facendo sul serio. Quindi quando un governo vuole perseguire seriamente questo obiettivo, impiega anche i servizi segreti, cosa che in Italia veramente abbiamo visto di volte di crude da questo punto di vista. Volevo ricordare per esempio i famosi 98 miliardi di euro che dovevano essere versati all'erario, all'agenzia delle entrate, all'erario, per quanto riguarda le slot machine, tutta quella faccenda, quel caso che fece che nacque, diciamo, da un articolo del Sole, da un'indagine dei giornalisti del secolo XIX, e che grazie a funzionari dei monopoli compiacenti, a malavita e compagnia varia, con le schede taroccate, c'è tutto un giro, un verminaio veramente di schifezze, questi sono riusciti a deludere al fisco, a non far entrare nelle casse dello Stato 98 miliardi di euro, ma solo in Italia riescono a fare queste cose. In uno Stato serio, questi sarebbero tutti in galera. Intanto commenti all'iniziativa di Filettino su Facebook, niente, diciamo, di sindaco autoproclamati tu principe dello staterello di 550 sudditi, dice Alberto, ma va, e in generale non sono commenti proprio lusinghieri. 19:58, quasi 59, facciamo una pausa e torniamo tra pochissimo. Eccoci qua con i titoli del TG1. La giornata mondiale della gioventù, la via Crucis del Papa per il centro di Madrid con migliaia di ragazzi stamattina all'incontro con i reali. Borse, l'Europa in rosso, Milano la peggiore, perde oltre il 2%, Bruxelles apre gli eurobond ma la Merkel conferma il no. Bologna, svolta sulla bomba alla stazione che provocò 85 morti, indagati due terroristi tedeschi di estrema sinistra, collaboratori del terrorista Carlos. Scontro tra natanti sul Lago Maggiore, muore una donna, ennesima vittima di tragedie in acqua dovuta all'imprudenza ma anche a droga e alcol. Torna il grande caldo per tutto il weekend, temperature fino a 39 gradi, 27 le città monitorate dalla Protezione Civile. Anche la chiesa che sembra non si muova, ogni tanto ci ripensa e ne inventa una nuova. E dimostrando un notevole tempismo ha già tirato fuori un nuovo catechismo. Avete sentito il TG1 che apriva con il Papa a Madrid? Oggi il presidente della CE Bagnaschi ha parlato dell'evasione fiscale, ha detto cifre impressionanti e chissà se una delle novità della Chiesa che si rinnova prima o poi sarà anche una, come dire, un peccato di evasione fiscale o comunque una presa di posizione ancora più netta su questo, già che Bagnasco poi dice, beh insomma, però non ci fate scendere in cose troppo tecniche attorno alla manovra. E già che ci siamo, la sfida Formigoni-Staderini sulle tasse che paga o non paga la Chiesa in Italia. Uso la sua trasmissione per lanciare una sfida. Questi signori facciano l'elenco degli edifici che secondo loro sono usati in maniera irregolare dalla Chiesa. È facile lanciare un'iniziativa dal sapore un po' retrocio, ottocentesco, anticlericale, anticattolica. Facciano l'elenco di quello che secondo loro viene dato dallo Stato alla Chiesa Cattolica, ripeto, rilegata anche da rapporti internazionali, che secondo loro viene utilizzato male. È figlia del demonio. Formigoni ha fatto bene a lanciare la sfida, ma dobbiamo dirlo subito, è una sfida con le mani legate, perché il censimento degli immobili del Vaticano, che chiediamo come radicali da 40 anni, non l'hanno mai fatto e mai voluto fare, né lo Stato né tantomeno gli stessi ecclesiastici. Puoi anche risposare, a patto che stai buono e non ti metti a scopare. Felici, appunto, cioè, vogliamo far pagare le chiese sono un patrimonio storico, anche artistico, culturale, servono per il culto delle persone. Il fatto di poter avere una religione è stabilito chiarissimamente in Costituzione, fra l'altro esistono anche dei trattati internazionali che legano lo Stato italiano al Vaticano. Nessuno vuole tassare le chiese, le parrocchie o gli oratori. Si tratta qua di andare a vedere tutta quell'area che proprio sul dubbio interpretativo diventa elusione. Faccia dei controlli sulle case per ferie, cioè quegli ex conventi in cui le suore sono state messe tutte in un piccolo angolo, se sono rimaste, e sono diventate, diciamo, delle attività ricettive. Ma gli escamotaggi sono di più. Io invito tutti ad andarsi a trovare sul convegno, sul sito della CEI, c'è un convegno della CEI dell'8 ottobre 2009, l'avvocato Rossi Federico, che dà proprio le indicazioni su come si fa a non essere passibili di ICI. Ma la sfida tra il presidente della regione Lombardia Formigoni, politico di CL vicinissimo alla Chiesa Cattolica Italiana, e il segretario dei radicali italiani Mario Staderini va avanti e riguarda anche l'8 per mille. L'8 per mille non serve tanto per i poveri o per la carità, perché viene speso soprattutto non solo per lo stipendio dei preti, ma per costruire nuove chiese dove, in un paese come il nostro, dove c'è il massimo rapporto tra chiese e cittadino. In 20 anni ci siamo ritrovati, è un problema da porsi al Parlamento, ci siamo ritrovati a finanziare 1,5 miliardi di euro, solo di 8 per mille, in 20 anni per costruire nuove chiese, mentre invece nello stesso periodo l'edilizia popolare, le case popolari, gli investimenti dello Stato si sono ridotti a zero. Ciò che lo Stato dà alla Chiesa è lo 0,8 per mille, che è legato ad iniziative di carattere strettamente sociale, caritativo, assistenziale, soprattutto verso i ceti più bassi, che la Chiesa realizza. Ripeto, non mi auguro che nessuno voglia andare a toccare le libere offerte dei fedeli italiani o del mondo. E tutti hanno capito che il Papa era un genio. E così, con questa musica, con questa canzone di Giorgio Gaber, la Chiesa si rinnova. Abbiamo dato anche un tono, così, un po' aureo a questo dibattito, a questa sfida lanciata dal presidente della regione Formigoni, Lombardia Formigoni, qui ai nostri microfoni, raccolta per ora da Staderini. E dopo le repliche di Staderini ci sarebbe da aspettarsi una controreplica di Formigoni. Intanto titoli della 7. La settimana delle borse europee si chiude con nuove importanti perdite, bruciati 94 miliardi di euro, Milano in rosso quasi del 2,5%. Male ancora bancari e Fiat, crolla il prezzo del petrolio mentre l'oro raggiunge livelli record. Bruxelles torna a pensare agli euro bond cari a Tremonti, ma bocciati dalla Germania e dalla Francia. Si deve fare presto, ma la manovra anticrisi resta un punto interrogativo. Scudo, bis, IVA, contributo di solidarietà. Intorno a questi punti la maggioranza sembra paralizzata. La Lega ribadisce le pensioni non si toccano, spunta l'ipotesi della vendita di immobili statali. Veltroni rilancia dimezzare i parlamentari. Se la famiglia non è al centro della politica, la società non va da nessuna parte. La Chiesa lancia il suo appello contro la manovra e con il richiamo del Cardinale Bagnasco per il presidente della CEI. Occorre combattere l'evasione fiscale e pensare a misure per la famiglia. Appello anche dai sindaci, questa manovra è come uno tsunami per i comuni. Il 29 agosto, mobilitazione nazionale. E anche la Lega fa i conti con il malessere al suo interno che Bossi ha toccato con mano nelle ultime uscite. Sono mancati i consueti bagni di folla, ma non i commenti negativi degli amministratori locali. La promessa del no al taglio delle pensioni non sembra bastare al popolo leghista che annuncia un autunno molto caldo. Sangue sul venerdì di preghiera in Siria, colpiti i manifestanti antiregime. Dopo Obama anche l'Unione Europea prepara delle sanzioni, ma Mosca si dichiara contraria alle dimissioni del presidente siriano chieste dagli Stati Uniti. Tensione anche tra Tel Aviv e il Cairo dopo l'attentato di ieri e l'uccisione di 3 militari egiziani. Razzi su Israele che risponde con raid aerei. Nessuno sconto per l'Atalanta e per il suo capitano Cristiano Doni, confermate le sanzioni anche per Beppe Signori e il portiere della Cremonese Paoloni. Queste le decisioni della Corte di Giustizia Federale nel processo di secondo grado del calcio scommesse, prosciolto solo Thomas Manfredini. Numero verde 824 0024 per intervenire in diretta ancora in questo spicchio di programma, ancora circa una mezz'oretta. Andiamo con Fulvio che ci chiama dalla provincia di Cuneo, ancora Cuneo stasera. Sì, pronto? Sì, prego. Sì, sono Fulvio, vorrei parlare dei costi della politica. Io sono un amministratore pubblico di una città di 21.000 abitanti, sono presidente di una commissione consigliare permanente molto importante, perché commissione urbanistica, lavori pubblici, viabilità, capogruppo consigliare, coordinatore di maggioranza, nonché consigliere delegato alla sicurezza, e percepisco 38 euro netti al mese, perché ci siamo ridotti per ben due volte il nostro emolumento. Se questi sono i costi che bisogna tagliare, io devolvo tranquillamente il mio emolumento al comune. Tra l'altro lei non è un comune che verrà toccato, perché 21.000 abitanti siete fuori da... No, però verrà toccato in termini di consiglieri comunali e di assessori, anche questo, nonostante il nostro comune abbia rispettato, e qui parlo di naturalmente bilanci, il patto di stabilità ormai da anni. Quest'anno abbiamo avuto un taglio netto in conto corrente di 350.000 euro e abbiamo in conto capitale un milione e mezzo di euro. Mi dica lei come possiamo amministrare un comune di 21.000 abitanti che peraltro virtuoso ha già accorpato altri comuni per i servizi di polizia municipale. Questa è una vergogna, secondo me, una vergogna. Si fa demagogia nei confronti di soggetti, consiglieri ed assessori comunali che sul territorio sgobbano quotidianamente, rispondono ai cittadini quotidianamente e percepiscono emolumenti di 38 euro. Ma voi quanti siete in consiglio comunale? Noi siamo 20 consiglieri comunali a 38 euro a seduta, mi dica lei. Sì, ma il decreto cosa fa? Vi imporrebbe nuovi limiti? Cioè, esattamente sì. Quanti consiglieri comunali dovreste diventare? Dovremmo diventare 15 consiglieri comunali e si dovrebbero ridurre anche gli assessori. Quanti sono adesso? Attualmente sono 7. E quanti diventerete? 4, con tutte le deleghe, che sono deleghe importanti per una città di 21.000 abitanti. Grazie, Il nostro sindaco percepisce 1.400 euro netti al mese. Responsabilità civile e penale, mi dica lei. Sì, no, devo dire che 4 assessori, insomma, se abbiamo sentito prima il sindaco di Acceglie, 178 abitanti, sempre 4 assessori, beh, qua sono 20.000. Qualche ragione, fatte le dovute proporzioni, questo amministratore ce l'aveva. E va bene. Cosimo da Milano, buonasera. Buonasera Maurizio. Volevo dire velocemente che lei è un cronista fortunato. Perché io sono? Un cronista, un giornalista fortunato. Fortunato, sì. Per quale ragione? Qualche settimana fa ha raccolto una perla da parte del signor Ciriaco De Mita, che secondo me rimane negli annali, quella di voli Strasburgo-Roma diretti. Sì, sì, no? Notevole. Quella è una pietra miliare da tenere conservata nei cassetti, perché ha futura memoria. Poi credo sia passato attraverso Villari e la buvette del Parlamento, i 3 euro rotti per mangiare il pesce fresco, poi neanche tanto buono, e stasera il florilegio di dichiarazioni dei vari sindaci, più o meno assessori, sono veramente uno specchio, secondo me, veramente lasciare basite le persone, perché la presidentessa dell'associazione Piccoli Comuni, e già ci si chiede per quale motivo i piccoli comuni devono essere associati fra di loro a fare il che non si sa bene, che però non conosce i numeri della sua associazione, è straordinario. Poi i vari piccoli sovrani, sovranetti, quelli che vanno in comune dicono sì, prendo 38 euro. Mi ha un po' deluso piccolo... il sindaco di Filettino, io pensavo, no, adesso lei si riferiva a qualcun altro, io mi riferivo adesso a Filettino, mi ha un po' deluso perché pensavo che la proposta del Principato fosse più succosa, invece era un po' moscio. Non so se ha sentito anche questa. Cosimo, sì. Velocissimamente, sì. Però il problema, ripeto, anche all'ultimo amministratore ha chiamato tutto indignato e ci ha snocciolato i suoi costi, ma sono i suoi non verificabili fino a prova contraria. Il problema, secondo me, non è tanto che lui costa 38 euro, e non voglio parlare di lui, ma ci sono assessori, sindaci, che costano 38 euro a seduta. Il problema sono i costi indiretti che generano per fare, non quello che ha appena parlato evidentemente, ma per fare una mala politica sul territorio che poi si riflette su tutti i costi sui cittadini. Perché io prendo 38 euro a seduta, ma se poi, e non parlo dell'ultimo che ha fatto... ovviamente, ma se poi faccio inserire l'azienda fornitrice di A piuttosto che B, quella differenza di costi, mi dispiace, ma si riflette sui cittadini, quindi i suoi 38 euro, e non sto parlando di lui, alla fine è veramente demagogia che fa lui però, ed è abbastanza, volevo fare un intervento simpatico, mi sono infattivito, perché quando poi... vabbè, capita perché, sì, delle persone, le notizie, sì. 38 euro. Guardi, allora Cosimo, lei vuole fare un intervento simpatico, se è incattivito allora le dedico il prossimo ospite, che è una storia per certi aspetti virtuosa e positiva. Introduciamolo. Campanile sera, ancora una volta. Il campanile questa volta che suona è quello del comune di Ledro, e diamo il benvenuto al sindaco di Ledro, Achille Brigà. Buonasera. Brigà, ci sente, sì. Sì, la sento. Buonasera a tutti. Ecco, questa, dicevamo, è una storia positiva. Adesso lei ci spiegherà il perché, una storia anticipatrice, è comunque frutto di spunti interessanti. A questo punto, prima di iniziare l'intervista, però, farei la pausa per il traffico, così diamo doverose informazioni agli automobilisti e poi rientriamo subito con Brigà. Eccoci qua, Brigà. Buonasera ancora. Allora, voi avete, adesso ci spiegherà un po' bene, avete fregato tutti qualche anno fa perché vi siete, insomma, il comune di Ledro è nato dall'accorpamento, cioè c'era già, però... Dalla fusione di tanti... Di 6 comuni. Esatto, di 6 piccoli comuni, una storia che credo nasca nel 2008, però probabilmente aveva anche lì degli insomma, dei fatti che antecedevano. Sì. Ci spieghi un po', lei sarà soddisfatto tra l'altro adesso che si parla di accorpare i piccoli comuni, e voi questa strada l'avete intrapresa in sordina quando nessuno ne parlava. Sì, è chiaro che nessuno è soddisfatto, ma questo inizia, diciamo, all'inizio degli anni 90 con alcuni consiglieri di vari comuni e alcune persone, diciamo, di buona volontà che hanno deciso di trovarsi per cominciare a parlare di unione dei comuni, legati poi alla legge che era nata in quegli anni, nella 142 del 90, e che dava, diciamo, degli indirizzi per far queste unioni dei comuni con dei vantaggi anche economici. Però questi queste persone si sono impegnati per creare quello che poi sarebbe diventata l'unione dei comuni di Ledro. Perciò è partita negli anni 90 e si è fatta questa unione nella quale praticamente la parte politica, che era la giunta composta dai sindaci che formavano questa unione e che piano piano ha cominciato a delegare e perciò spostare del personale dei vari comuni per alcuni servizi, sì. Per esempio il servizio demografico, l'ufficio tecnico, e ci sono attivati perciò con alcune attività e con alcuni, diciamo, importanti impegni che davano servizi a tutta, diciamo, a tutta la, a tutti i vari comuni. Se, questo sì. Diciamo è stato l'inizio in sostanza. Poi c'è stato un referendum. Poi nel 2008 c'è stato un referendum al 30 novembre perché questa unione è per legge non può oltrepassare i 10 anni, per cui o si fa la fusione o non si va da nessuna parte, per cui prima che scadessero questi 10 anni i vari comuni hanno deciso di fare questo referendum con la legge regionale, perciò è stato fatto questo referendum dal 30 novembre, nel quale il 75% della popolazione ha risposto sì al comune unico. Quindi c'è stato a prevalso, anziché il campanile, ha prevalso un senso così, diciamo, di virtuosismo, cioè nel senso un'amministrazione che, insomma, avete proposto un percorso di sviluppo che ha messo alle spalle la questione dei campanili, cioè i piccoli comuni. Sì, credo che questo sia stato legato soprattutto al fatto che alcune realtà come la biblioteca, sì. Gli uffici tecnici, gli acquedotti, alcuni servizi, la raccolta, sì. Dei rifiuti, venivano svolti, diciamo, da questa unione dei comuni, per cui cominciava a funzionare, diciamo, qualcosa che nel diciamo che il cittadino apprezzava. Perciò, c'è stato un miglioramento e c'è stato un risparmio. C'è stato un risparmio e un miglioramento, ma soprattutto... Quante poltrone però alla fine, mi consenta questa domanda, se è possibile fare questo calcolo, quante poltrone diciamo, sono saltate? Sì. Lei moltiplichi 15, che sono i consiglieri comunali di ex comuni, moltiplicati per 6, sono 90 consiglieri, no? Perciò... Adesso siamo in 20, c'erano 6 sindaci, c'è un sindaco, c'erano 3 o 4 segretari, adesso c'è un segretario e un vice segretario, si è praticamente rifatto tutto l'organigramma del personale specializzandoli, perciò quello che soprattutto si vede adesso, sì. È la, diciamo, la qualità del servizio, ecco, la professionalità. Ma invece proprio il numero, cioè, insomma, la cifra che avete risparmiato, il numero di poltrone che avete tagliato, tanto, per essere brutali, circa, sì. 150.000 euro circa, sì? All'anno. Tra, diciamo, perché è chiaro, abbiamo un segretario o due in meno, adesso esattamente un paio di segretari in meno, poi è chiaro, gettoni di presenza, mobilità dei vari sindaci, spostamenti e cose varie. Per cui è chiaro che c'è un, sì. Risparmio. Parliamo di un bacino di quanti abitanti? Allora, il bacino, gli abitanti non sono moltissimi, sono 5.520 a tuttora. Però è un'area molto grande, 159 km quadrati, sì. Molto estesa, e sono 13 piccole comunità che hanno tutte bisogno perciò dell'acquedotto, della fognatura, delle scuole, delle strade apposte e quant'altro. E questo comporta, diciamo, sicuramente una possibilità da parte del comune di dare risposta in tempi brevi su diciamo un territorio molto vasto. Tutto ciò si può fare solo se una certa organizzazione che può andare a coprire, diciamo, tutte quelle che sono le esigenze del cittadino che è agli antipodi, perché noi siamo su un territorio molto grande. Però l'organizzazione, perciò l'ufficio tecnico che ha una certa specializzazione, perché c'è, diciamo, i geometri che seguono l'edilizia privata, la pubblica, il patrimonio, sì. C'è la ragioneria che si è, diciamo, mi dica una cosa però, perché insomma la vostra, sì. Storia è interessante, però anche alla luce di quello che sta accadendo adesso in Italia, dal suo punto di vista il decreto col quale il governo punta ad accorpare i piccoli comuni va nella direzione giusta? Penso di sì, ma anche nelle modalità, per quello che lei ha letto? Ma guardi, io credo di sì, cioè quello che non è stato fatto in Italia in questi anni l'hanno fatto negli altri paesi come la Germania, come l'Inghilterra, che l'hanno imposto, no? Da noi invece era una scelta, l'unione dei comuni e quant'altro. Perciò alcuni si sono uniti, altri no. Ma è chiaro che così non si poteva andare avanti, perché quello che vedo io oggi è che questa, diciamo, fusione a posteriori andava fatta forse qualche anno fa, perciò anticipata ancora, perciò siamo già in ritardo anche noi per certi aspetti, però io non oso pensare a chi non l'ha fatto anni fa o non lo sta, perciò credo che la strada è questa. Poi è chiaro che quando viene imposta è più difficile portarla avanti, perché ci sono già delle direttive alle quali devi ubbidire e quant'altro, però è l'unico modo per dare la possibilità di vivere ai piccoli comuni, perché io credo che i piccoli comuni, con le difficoltà che hanno sulla spesa corrente e con meno possibilità di avere gettiti sia dalle regioni che dalle province o dallo Stato, è chiaro che vanno in difficoltà, per cui non potrebbero più dare quei servizi essenziali al cittadino. Io la ringrazio, Achille Brigà, buonasera, sindaco del comune di Ledro. La storia del comune che ha federato altri sei piccoli comuni in Trentino, e si sono ottenuti, insomma, i risparmi che si sono ottenuti, e si è fatto in sordina quello che adesso invece molti altri piccoli comuni italiani dovranno apprestarsi a fare. Ascoltatori, in quest'ultima parte di trasmissione andiamo con Paolo, che ci chiama dalla provincia di Bari. Buonasera. Buonasera, salve. Prego. Salve, io volevo dire, sono un amministratore del comune di Noci, sono consigliere comunale e ho 27 anni, credo che per questo mi darà qualche minuto in più. Un giovane consigliere comunale che è d'accordo con la manovra. Io credo che negli anni si è gestita male la cosa pubblica, abbiamo avuto dei politici che hanno riempito gli enti, li hanno moltiplicati, li hanno addirittura aumentati pur di ottenere quel consenso che in quel momento occorreva alla politica, gestendo la cosa pubblica in maniera egoistica e non pensando ai giovani e alle future generazioni che ovviamente vengono, diciamo, da dietro. E se così ovviamente si continua a realizzare, diciamo, nella politica, io non so, credo i miei figli o chi verrà dietro di me che cosa troveranno. Quindi io credo che oggi abbiamo un problema fondamentale. Il problema è quello di sanare ovviamente il nostro bilancio. La comunità europea ci chiede di chiudere i bilanci in parità. Sì, benissimo. Grazie Paolo. Sì. È che abbiamo pochi minuti in totale, non tutti per lei. Paolo da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. La chiamavo per parlare dell'evasione fiscale, che è un argomento che ne ho sentito parlare, ma nessuno o quasi nessuno ha mai detto cosa vuol fare per evitarla o per cercare di arginarla. Cioè, io sono una persona normalissima, insomma, che un minimo di ragionamento lo faccio. In Italia abbiamo circa, mi sembra di aver sentito, circa 100 miliardi di euro di evasione, giusto, più o meno, una cosa del genere, quindi altissima. No, nessuno mi ha detto fino ad oggi cosa fa per recuperarla. Mi devo far capire, perché le leggi ci sono. Allora, se non si può, se c'è questa evasione, vuol dire che le leggi non vanno bene. O se le leggi vanno bene, c'è chi non fa i controlli. Questi sono quesiti esistenziali, caro Paolo. Intorno a queste cose si dibatte da anni. Speriamo invece che qualcosa cambi, ma sono gli strumenti concreti di lotta all'evasione fiscale. Se la mettiamo sul piano della filosofia, della storia della filosofia della lotta all'evasione fiscale negli ultimi anni in Italia, non la finiamo più. E io vorrei sentire ancora un altro ascoltatore o due. Siamo in chiusura. Mario da Savona. Buonasera. Sì, buonasera. Sì. Salve, ciao. Telefonavo per due motivi sostanzialmente, che sono Telecom e anche l'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Mi spiego. Diversi anni fa risultava da inchieste giornalistiche che le varie centrali telefoniche di Telecom Italia, che allora svolgeva il servizio universale telefonico, cioè le cabine telefoniche e tutto, erano esentate dalle tasse e dall'ICI in particolare, all'epoca c'era, e sono migliaia di immobili in giro per tutta l'Italia, lo ricordiamo, e anche questa cosa è una cosa che non viene mai toccata e sulla quale si fa molta attenzione, diciamo così. Un'altra cosa interessante è che, per esempio, lo stesso dei giornalisti della Lombardia ha sede in un immobile della Curia di fronte alla stazione centrale a Milano, e paga un affitto insomma considerevole. Sarebbe interessante capire se questo immobile, dove hanno sede anche molti altri uffici, tra i quali gli uffici del canale navigabile Milano. La devo interrompere, mi dispiace. Prego. La devo interrompere perché, come sente, la musichetta di sottofondo incombe e questo è il segnale che il programma è finito anche per questa sera. Io vorrei ringraziare per queste tre settimane Laura Marchesi e Marco Lombardo, l'abbiamo già detto, in redazione, Mauro De Angeli in regia, ma anche Nicole Santini, Rosa Longobardo, Jessica Lemma per il loro lavoro imprescindibile, l'avete sentite voi ascoltatori che siete intervenuti al centralino. Grazie ancora a tutti, buona serata, la Zanzara ritorna lunedì con Parenzo e Cruciani. Radio 24, la passione si sente.